Benvenuti in Audible. Buon ascolto. Audible Studios presenta Neopopulismi, perché sono destinati a durare, di Paolo Graziano. Letto da Gianni Gaude. Uno spettro si aggira per l'Europa, e non solo. Fin dal celebre convegno che si tenne presso la London School of Economics LSE nel lontano maggio del 1967, gli scienziati sociali, in particolar modo i politologi, si sono interessati al populismo come fenomeno politico. Tuttavia, tralasciando le forme storiche del populismo agrario, protagonista dell'Ottocento statunitense, People's Party, e russo, più come corrente di pensiero che come vero e proprio movimento politico, è soprattutto in anni recenti che il populismo è diventato un tema sempre più centrale nelle agende di ricerca di studiosi di tutto il mondo e un punto di riferimento più o meno esplicito per numerosi partiti politici europei. Oggi esiste anche un indice di populismo che tiene conto del fenomeno, Timbro Authoritarian Populism Index, e il numero di studiosi del fenomeno è in crescita. Delle circa 200.000 pubblicazioni censite dal motore di ricerca Google Scholar, oltre 60.000 sono comparse dopo il 2000, più del 30%, a conferma della recente accresciuta attenzione al fenomeno sotto il profilo accademico. Nel celebre incipit del volume, che raccoglie gli interventi della menzionata conferenza della LSE, Gita Ionescu e Ernest Gellner parlano di uno spettro che si aggira per il mondo, il populismo. Se forse allora, come osservano opportunamente in un saggio del 2008 Daniele Albertazzi e Duncan McDonnell, era improprio parlare di fenomeno mondiale. Di certo, oggi, è molto più appropriato e non a caso un numero recente dell'International Political Science Review, una rivista politologica di rilievo internazionale, è interamente dedicato al populismo nella politica mondiale. In altri termini, il fenomeno del populismo, o ciò che viene considerato populismo, ha assunto proporzioni mondiali e pertanto merita di essere compreso in profondità e non solo evocato in modo superficiale. Tale esercizio, peraltro, sarebbe piuttosto semplice se vi fosse una definizione condivisa di populismo. Ma così non è. O meglio, in letteratura, ci sono diverse definizioni e interpretazioni che spesso fanno della categoria analitica populismo un contenitore a cui corrispondono molti, troppi contenuti. Obiettivo del prossimo paragrafo è passare brevemente in rassegna le definizioni più promettenti per proporne una sintetica. Populismo. Cosa è? In questa sede non si offrirà una panoramica storica sugli studi che si sono occupati di populismo, e ciò anche perché vi sono numerosi contributi di rilievo in lingua italiana per lettrici e lettori desiderosi di approfondire la propria conoscenza in materia. Più che sulle specifiche definizioni fornite in letteratura, ci si soffermerà piuttosto sugli elementi salienti che hanno caratterizzato le analisi più innovative sul tema. Il già citato contributo, curato da Ionescu e Gellner, dà conto della pluralità di definizioni, una pluralità simile alle varianti nazionali indagate nel volume. Fin dall'inizio del brillante saggio di apertura, i due autori sottolineano la natura proteiforme del concetto e la difficoltà di trovare proprietà comuni che consentano al concetto di viaggiare nel tempo e nello spazio. Inoltre, il termine populismo è stato, ed è, utilizzato variamente per definire un partito, un'ideologia, un movimento politico o un leader politico in diversi contesti nazionali e momenti storici. Nell'ambito della conferenza tenutasi alla LSE, emerse in tutta la sua ampiezza la diversità di vedute circa la definizione dell'oggetto di analisi. Alcuni studiosi consideravano il populismo come un'ideologia, altri come un movimento politico e altri ancora come una sindrome, da cui la deriva peggiorativa che il termine ha assunto e continua spesso ad assumere, soprattutto in ambito giornalistico. In altre parole, come ha ricordato Paul Adam Taggart in un suo libro tradotto in italiano nel 2002, il populismo, la nozione di populismo era ancora piuttosto evanescente perché usata per caratterizzare fenomeni significativamente diversi. Taggart ci ha offerto l'importante suggerimento di concentrare la nostra attenzione su alcune dimensioni rilevanti per dar conto del fenomeno. Più in generale, grazie al contributo di Margaret Canavan, 1981, di Taggart, 2000, e di Cass Mudde, con l'articolo The Populist Zeitgeist del 2004, un'intesa di massima circa gli aspetti salienti della definizione è stata trovata, sebbene quest'ultima non sia indiscussa. Pertanto, prendendo spunto dagli autori sopracitati e sulla scorta di una vasta letteratura accademica sul tema, in questa sede mi propongo di discutere le dimensioni più rilevanti per la definizione di populismo: ideologia, stile comunicativo e organizzazione, inclusa la leadership. Il populismo è innanzitutto un insieme di assunti valoriali o una visione del mondo che pone al centro il popolo e le sue qualità. È un'ideologia. Il popolo, come oggetto e soggetto della democrazia, viene visto come puro, dotato di buon senso. Se non vi fossero politici corrotti, sarebbe in grado di prosperare al meglio in qualsiasi contesto politico. Tale matrice ideologica, in effetti, è identificabile anche, tra gli altri, negli scritti di Herzen o di Ignatius Donnelly, una delle anime del Partito del Popolo Americano, creato nel 1892. Ad esempio, proprio nel preambolo del documento programmatico, Platform, del Partito del Popolo statunitense, si legge: «Crediamo che il potere del governo, in altri termini del popolo, debba essere espanso per poter porre fine all'oppressione, ingiustizia e povertà». Al di là dell'esempio storico, il popolo viene considerato come un insieme omogeneo di soggetti ignorati o maltrattati dai partiti, dalle istituzioni, dagli attori economici, che in tempi più recenti diventano multinazionali. Il popolo rappresenta un mondo sano su cui le élite hanno posto un giogo ritenuto inaccettabile. Il populismo si gioca sulla piena contrapposizione tra le virtù del popolo e i vizi delle élite. A titolo di esempio particolarmente indicativo sono alcune frasi di Beppe Grillo o di Pablo Iglesias, leader di Podemos, partito di cui parleremo in seguito. Il primo, in un post del 13 dicembre 2013, scrive: «Movimento 5 Stelle non è di destra né di sinistra, è dalla parte dei cittadini. Fieramente populista. Se una legge è buona la vota, se è cattiva non la vota. Chiunque la proponga e chiunque voti le sue proposte di legge è benvenuto. Nessuna alleanza con i partiti che hanno trasformato una delle maggiori potenze industriali del mondo in uno sfacelo. Il nemico è rappresentato dai partiti e il vanto principale del movimento partito fondato da Grillo è di non collocarsi né a destra né a sinistra, bensì di essere dalla parte dei cittadini, sotto forma però di popolo, diventando così fieramente populisti». Il secondo, Pablo Iglesias, in uno dei tanti discorsi pronunciati nel corso degli ultimi anni, afferma: «Ora basta con la sovranità sequestrata, ora basta con governi codardi che non difendono i loro popoli. E oggi sogniamo un'Europa dei cittadini, non degli affaristi e delle banche. Un'Europa della gente e dei popoli». Discorso di Pablo Iglesias a Puerta del Sol, 31 gennaio 2015. In questo caso, La purezza dei popoli viene infangata dai governi codardi, dagli affaristi, dalle banche, e soltanto un'Europa dei popoli è degna di essere costruita. A differenza di altre ideologie più articolate, quali il socialismo, il liberalismo, il comunismo, quella populista è caratterizzata da un nucleo o centro che si definisce sottile, cioè limitato, in particolare limitato all'identificazione di una relazione antagonistica tra il popolo e il nemico, l'élite, partitica, istituzionale o economica che sia. Come vedremo, uno dei limiti maggiori della definizione ideologica di populismo è che rimanda a un'altra ambiguità definitoria, cioè quella di popolo. La definizione di populismo varia in funzione della definizione di popolo. Altre definizioni di populismo si sono incentrate sullo stile comunicativo o sulla retorica dei partiti populisti, una retorica che si fonda sulla mobilitazione dei sentimenti e non su di un'argomentazione volta a identificare i punti di forza o di debolezza della proposta di un partito o di un personaggio politico. In particolare, la retorica populista si può dividere in tre fasi e si pone come obiettivo finale quello di far risaltare il politico o il partito populista come un soggetto salvifico. La prima fase è quella della definizione e demonizzazione dell'avversario, che deve diventare un nemico. Nel discorso inaugurale del presidente Trump, del 20 gennaio del 2017, tale modalità emerge immediatamente dall'appello diretto al popolo. La cerimonia di oggi ha un significato speciale. Oggi non stiamo semplicemente trasferendo potere da un'amministrazione ad un'altra, da un partito ad un altro. Stiamo trasferendo il potere da Washington DC, ridandolo a voi, il popolo americano. Troppo a lungo un piccolo gruppo di persone che si trova nella capitale del nostro paese ha beneficiato dei vantaggi del governo mentre il popolo ne ha sostenuto i costi. Washington è fiorita, ma il popolo non ha condiviso la sua ricchezza. I politici hanno prosperato, ma i posti di lavoro se ne sono andati e le fabbriche hanno chiuso. L'establishment si è protetto, ma non ha protetto i cittadini della nostra nazione. Le loro vittorie non sono state le vostre vittorie, i loro trionfi non sono stati i vostri trionfi. E mentre loro festeggiavano nella capitale della nostra nazione, c'era poco da festeggiare nelle famiglie in difficoltà in tutto il paese. Il discorso muove dal riconoscimento di un avversario, l'élite, l'establishment, eccetera, che ha tradito il popolo, i lavoratori, le famiglie in difficoltà. Il passaggio retorico successivo è quello in cui si enfatizza il cambiamento. Tutto questo cambia, da qui, da ora, perché questo è il tuo momento, ti appartiene. Nel caso di Trump, il soggetto salvifico, se stesso, entra in gioco e declama ciò che farà per gli americani, popolo tanto bistrattato dai governi precedenti. Dobbiamo proteggere i nostri confini dalle devastazioni dei paesi che hanno costruito i nostri prodotti, rubato le nostre aziende e distrutto i nostri posti di lavoro. Proteggere porterà a grande prosperità e forza. Io lotterò per voi con ogni respiro del mio corpo. E mai, mai vi deluderò. L'America riprenderà a vincere di nuovo e vincerà come mai prima d'ora. Riporteremo a casa i nostri lavori, ripristineremo i confini, riporteremo a casa la ricchezza e riporteremo a casa i nostri sogni. Seguiremo due semplici regole: compra americano e recluta americano. Il presidente è il soggetto che riporterà a casa i sogni, oltre ai posti di lavoro, alle fabbriche, e che ripristinerà i confini. E tale attività, l'ultimo tassello della retorica populista, segna l'inizio di una nuova era. Il 20 gennaio 2017 verrà ricordato come il giorno in cui il popolo è tornato a governare il proprio paese, e dunque americani di città vicine e lontane, piccole e grandi, da una montagna all'altra e da un oceano all'altro, ascoltate queste parole. Non sarete mai più ignorati. La vostra voce, le vostre speranze, i vostri sogni definiranno il nostro destino americano. E il vostro coraggio, la vostra bontà e il vostro amore ci guideranno per sempre lungo la via. Insieme renderemo l'America di nuovo grande. Renderemo l'America di nuovo ricca. Renderemo l'America di nuovo sicura. Grazie a Trump e alla sua capacità di ascoltare e guidare il popolo, questo è il sottotesto, si inaugura una nuova fase di prosperità e di speranza. Sebbene talvolta lo stile comunicativo sia stato considerato come qualcosa di diverso e più ampio rispetto alla retorica, per i nostri fini aggiungeremo che lo stile populista è sorretto da una retorica incentrata sulla semplificazione e sull'immediatezza del linguaggio. Il buon senso diventa un concetto chiave dell'argomentazione populista. Si considerano i cittadini come persone che hanno esigenze e non interessi o preferenze. Anche solo dal punto di vista formale, le esigenze si collocano tra i bisogni primari e non tra orientamenti cognitivi che diventano preferenze. L'esigenza è data, non può essere preferita, perché è unica e necessaria, e il buon senso non può che rispondere alle esigenze. Nello stile populista la semplificazione assume dunque la sfumatura della necessità, dell'esigenza, che in quanto universale diventa incontrovertibile, riducendo, se non annullando, lo spazio del pluralismo o del dibattito politico. Non è un caso che lo stile comunicativo populista utilizzi modalità in cui il confronto scompare. Non è un caso che uno dei primi discorsi populisti della storia politica d'Italia repubblicana possa essere considerato quello di Berlusconi del 26 gennaio 1994, relativo alla sua discesa in campo, non tanto per il contenuto, quanto per il formato, oltre che per l'audience potenziale. Comunicazione unilaterale e durata limitata del messaggio. Niente a che vedere né con le relazioni congressuali dei partiti, né con i comizi interminabili dei politici della cosiddetta Prima Repubblica. In tempi più recenti, la diffusione e l'utilizzo dei social media hanno incrementato ancor di più la possibilità di semplificare il messaggio. Basti ricordare i 140 caratteri di Twitter, che non consentono alcuna articolazione di pensiero, oppure la possibilità di aggiungere un mi piace a un breve video politico. In altri termini, oltre alla retorica, lo stile comunicativo populista è incentrato sull'obiettivo di semplificare e rassicurare attraverso il richiamo costante alla normalità o al buon senso delle persone comuni. Il popolo, per l'appunto. La terza e ultima dimensione di rilievo concerne l'organizzazione e la leadership. Il populismo non può esistere senza una struttura organizzativa al cui centro si trova un leader indiscusso. Vi possono essere formule più o meno condivise di leadership. Quella di Podemos, ad esempio, è molto più articolata della leadership della Lega o del Movimento 5 Stelle. Ma rimane centrale il fatto che essa debba essere riconosciuta e forte. È una leadership piena, che può rientrare o meno nelle regole dei partiti di riferimento, regole più simili a quelle dei partiti tradizionali nel caso della Lega, regole più innovative per il Movimento 5 Stelle, ma che si esercita soprattutto in un contesto di estrema personalizzazione della politica e di estrema sfiducia nei confronti dei partiti tradizionali. Matteo Salvini è la Lega, così come Beppe Grillo prima e Luigi Di Maio poi sono il Movimento 5 Stelle. E anche gli scandali vengono personalizzati. Ad esempio, non è la Lega ad avere problemi giudiziari, ma la Lega di Umberto Bossi e non di Salvini. In altri termini, l'organizzazione partitica viene costruita intorno al leader e non al partito. Un'estremizzazione di un modello che richiama alla memoria il contesto statunitense, in cui i partiti sono tipicamente espressione dei candidati e non viceversa. Queste tre caratteristiche, ideologia, stile comunicativo e organizzazione, non possono evidentemente essere considerate né allo stesso livello di importanza né ciascuna come sufficiente per identificare alcuni partiti come populisti. Devono essere presenti congiuntamente perché si possa parlare di partito populista tout court, perlomeno nell'eccezione più completa del termine. Sono cioè tutte condizioni necessarie, e il fatto che ve ne sia solo una non è sufficiente a caratterizzare un partito come populista. Ciò, evidentemente, non facilita il compito relativo alla misurazione del populismo, ma ai fini dell'esercizio a cui vogliamo dare vita con questo libro è sufficiente fermarsi qui. Riassumendo, il populismo è un insieme di assunti valoriali che muove da una netta contrapposizione tra un popolo puro e un'elite corrotta e che si manifesta con uno stile comunicativo grazie al quale vengono magnificate le virtù salvifiche del leader di un'organizzazione partitica fortemente personalistica. Lo sforzo definitorio, tuttavia, non è ancora completo, perché il populismo cambia di segno a seconda della definizione di popolo ed è pertanto alle diverse definizioni di popolo che dobbiamo brevemente rivolgere la nostra attenzione per trarre insegnamenti circa l'esistenza di varianti di populismo. Popolo. Cosa è? Se già definire il populismo è risultato impegnativo, la definizione di popolo potrebbe occupare biblioteche intere. Avendo a disposizione poche pagine, partiamo dal lavoro di sintesi di qualche anno fa di due studiosi francesi, Yves Meny e Yves Surel, che hanno suggerito una distinzione fra tre definizioni di popolo: popolo sovrano, popolo classe e popolo nazione. Come vedremo, mentre la distinzione tra la prima e la terza definizione può risultare complessa, la nozione di popolo-classe si differenzia in modo netto rispetto alle altre due e costituisce il chiaro punto di riferimento di alcuni dei partiti neopopulisti, spesso definiti di sinistra, quali Podemos, ma sul punto ritorneremo più avanti. Prima di procedere ad una sommaria analisi delle definizioni, è bene sottolineare come, sebbene distinguibili in teoria, molto spesso le accezioni di popolo utilizzate dai partiti sono molteplici. Ciononostante, anche i risultati empirici di cui parleremo nelle sezioni successive mostrano differenze sostanziali tra i riferimenti alle comunità immaginate, basate su concezioni diverse di popolo. La nozione di popolo sovrano prende le mosse dall'idea che la comunità politica di riferimento debba essere in grado di prendere decisioni in piena autonomia, attraverso procedure legittime che ne pongano al centro gli interessi. È in questo contesto che l'attività politica si traduce nel governo del popolo per il popolo, e i partiti populisti si battono per mantenere la sovranità nelle mani del popolo. L'elemento unificante, dunque, risiede proprio nella capacità condivisa di poter legittimare le istituzioni e, più in generale, di garantire un collegamento tra la comunità politica, i cittadini, e le istituzioni, governo, parlamento, eccetera. Il nemico del popolo sovrano è rappresentato da chi vuole appropriarsi della sovranità, ignorando il potere legittimante del popolo, come ad esempio i partiti tradizionali o i mediatori che, in una lettura oligarchica del loro funzionamento, vengono accusati di essersi impossessati indebitamente della sovranità. Vengono accusati di un furto di sovranità, trasferita dal popolo all'oligarchia partitica. La concezione di popolo-classe è invece connessa a una lettura della politica che muove da considerazioni di tipo economico e che può facilmente essere accostata alla tradizione socialista europea. Il popolo viene identificato con gli sfruttati dal sistema economico dominante. Sebbene la contrapposizione non sia tanto, come sarebbe in altre varianti ideologiche, tra borghesia e proletariato, quanto tra ricchi e poveri, tra privilegiati e svantaggiati, tra persone che fanno fatica e persone che se ne approfittano. In altri termini, la linea di demarcazione non è propriamente tra capitale e lavoro, bensì, in astratto, tra i perdenti e i vincenti dell'attuale sistema economico, e in particolare della globalizzazione. In questo caso il nemico non è rappresentato dai partiti, bensì dalle società multinazionali, sia in ambito produttivo, sia in ambito finanziario, e dalle organizzazioni internazionali che consentono a tali multinazionali di prosperare. Il popolo viene visto come un soggetto antagonista nei confronti della classe dominante, rappresentata in prima battuta dalle élite economiche e da chi trae giovamento dalla globalizzazione, considerata nociva per il popolo. E i nemici globalizzatori non sono tanto soggetti esterni al sistema politico, bensì soggetti interni che traggono vantaggi sulla pelle del popolo. Le banche, ad esempio, vengono considerate come agenzie di strozzinaggio e, nelle riflessioni più articolate, i partiti neopopulisti mettono in discussione il ruolo delle banche centrali, invocando la necessità di istituire monete alternative. Infine, il popolo-nazione si collega ad una lettura più culturale e identitaria, che vede nella comunità immaginata non tanto un insieme di soggetti che conferisce legittimità, come nel caso del popolo sovrano, bensì un insieme che nel corso del tempo ha sviluppato un senso di appartenenza connesso a un dato territorio, ad una lingua o etnia. In questo caso la purezza del popolo si traduce in un antagonismo nei confronti del diverso, considerato straniero in quanto privo dell'elemento identitario che lo rende simile ai puri del popolo-nazione. I confini non vanno difesi perché è da difendersi la sovranità nazionale dello Stato all'interno del quale si trova un popolo, ma vanno difesi per evitare contaminazioni provenienti da altre etnie o portatori di altre lingue e culture che metterebbero in pericolo l'identità linguistica e il senso di appartenenza originari. Ad esempio, la diffidenza manifestata da più partiti nei confronti degli immigrati, regolari o irregolari che siano, si connette a tale lettura di un popolo che deve essere difeso dall'assedio e dalla possibile propria estinzione determinata dall'invasione di stranieri. Le definizioni di popolo sopra illustrate non si trovano, sic et simpliciter, nei discorsi politici e nei programmi dei partiti neopopulisti. Ciò non di meno, tenere a mente tale differenziazione è estremamente utile per comprendere le sfumature utilizzate dai leader che poi si riflettono in preferenze politiche divergenti. Ad esempio, la posizione espressa da Podemos sull'immigrazione è di matrice radicalmente diversa dalla posizione espressa dai partiti quali la Lega, e tali differenze si possono comprendere alla luce della differente accezione che viene data alla nozione di popolo, popolo-classe nel caso di Podemos, popolo-nazione e popolo-sovrano nel caso della Lega. Populismo. Populismi. Alle recenti elezioni messicane ha trionfato Andrés Manuel López Obrador e i titoli di molti quotidiani hanno identificato la vittoria come una vittoria del populismo di sinistra. A più riprese, nelle sezioni precedenti, abbiamo portato esempi che distinguevano tra vari partiti populisti. Ma cosa si colloca alla radice delle differenze sopra menzionate? È soltanto la definizione di popolo che cambia o vi sono altre possibili differenze? Poiché verificare empiricamente l'accezione di popolo non è sempre agevole, in letteratura è stata proposta un'altra distinzione che consente, in prima battuta, di valorizzare storie e percorsi diversi di populismo. In particolare, a partire dal lavoro di Danny Filk, 2010, e da quello di Cass Mood e Cristobal Rovira Calvasser, 2013, i populismi sono stati analizzati col metro dell'inclusività, e cioè osservando la natura più o meno inclusiva della nozione di popolo. E ciò è stato fatto a partire da tre dimensioni: materiale, politica e simbolica. La dimensione materiale riguarda la distribuzione delle risorse economiche connessa alle politiche pubbliche nazionali. Consiste in una dimensione distributiva o redistributiva, da cui può dipendere, in ultima analisi, il benessere di ampie fasce di popolazione. Nella dimensione materiale rientrano le politiche sociali, le politiche per la casa, le politiche educative, tutte quelle politiche, cioè, che prevedono la distribuzione di risorse pubbliche, dalla natura inclusiva o esclusiva della definizione di popolo dipende la possibilità o meno di essere inclusi nella distribuzione delle risorse. Ad esempio, lo slogan «Prima gli italiani», utilizzato da Matteo Salvini nella campagna elettorale 2018, è altamente indicativo di una esclusione potenziale di chi non è cittadino italiano. Mentre un partito esplicitamente inclusivo, quale Potere al Popolo, presentatosi alle ultime elezioni italiane del 2018, sostiene l'opportunità di erogare servizi di welfare sotto forma di accoglienza anche agli immigrati, indipendentemente dal loro status giuridico. In altri termini, sotto il profilo della dimensione materiale si possono distinguere due visioni contrastanti. La prima, che tende ad essere esclusiva o escludente rispetto ai diritti di accesso alle politiche pubbliche, nazionali, regionali o locali che siano. La seconda, che tende ad essere più aperta, sostenendo il rispetto di un'universalità dei diritti che va oltre la nazionalità e o lo stato giuridico dei beneficiari. È una differenziazione di rilievo, soprattutto come vedremo nella sezione successiva, in un contesto di crisi economica e fiscale che limita il quantum di risorse disponibili. Un'argomentazione stilizzata del populismo esclusivo è la seguente: prima devono essere erogate le prestazioni a chi ne ha diritto perché cittadino, a tutti gli effetti, italiani, francesi, eccetera, e poi, se vi fossero risorse disponibili, potranno essere soddisfatti altri bisogni. L'argomentazione stilizzata del populismo inclusivo, invece, sarebbe la seguente: poiché tutti hanno gli stessi diritti, da considerarsi universali, anche a chi non è pienamente cittadino di un dato territorio, spetta tutto ciò a cui ha diritto un cittadino stato nazionale. Entrambe le argomentazioni sono estremizzate, ma utili per capire quale possa essere la diversità di vedute rispetto alla dimensione materiale. La seconda dimensione, quella politica, riguarda due aspetti fondamentali per la democrazia: la partecipazione e l'opposizione. Come richiamato in precedenza, il populismo critica in modo serrato la democrazia rappresentativa e ne sottolinea i limiti strutturali rispetto alla vera democrazia. La vera democrazia non può che essere diretta o partecipativa. Tuttavia, andando oltre a tale tratto comune, le visioni esclusive e inclusive divergono rispetto ai modi e ai soggetti della democrazia diretta o partecipativa. Per la prospettiva esclusiva sono da valorizzare quelle forme che danno voce direttamente al popolo, quali i referendum. Rispetto ai requisiti necessari per la partecipazione a forme più inclusive di politica, la visione esclusiva ammette solo cittadini stato nazionali e non è incline a includere altre persone che sono ai margini del sistema politico, quali gli immigrati di prima o in alcuni casi anche di seconda generazione. Ad esempio, i rappresentanti della visione esclusiva sono contrari a qualsiasi forma di estensione del suffragio anche a livello locale e sono fortemente contrari allo ius soli. La visione inclusiva, invece, adotta una prospettiva di allargamento della democrazia sotto il profilo della partecipazione, non solo attraverso modi classici della democrazia diretta, quali i referendum, bensì anche attraverso forme più innovative di democrazia partecipativa, quali il bilancio partecipativo e l'urbanistica partecipata. Anche rispetto ai soggetti che dovrebbero partecipare, il populismo inclusivo è maggiormente universalistico, giacché ritiene che tutti gli appartenenti a una comunità politica, indipendentemente dal loro status giuridico, debbano essere inclusi. E non si tratta solo di un tema che riguarda gli immigrati, bensì anche i soggetti esclusi o autoesclusi dalle procedure di democrazia rappresentativa, come ad esempio gli astenuti. In sintesi, entrambe le varianti di populismo, esclusivo e inclusivo, mettono al centro della loro battaglia politica l'estensione della partecipazione, se non il vero e proprio superamento della democrazia rappresentativa, ma tale estensione differisce per modi e per soggetti da coinvolgere. Infine, la dimensione simbolica. Per certi versi si tratta di una dimensione più significativa perché è connessa alla natura stessa del populismo. La definizione di popolo è dell'antagonista di riferimento, l'élite, mentre sotto il profilo della definizione del nemico le differenze tra i due tipi di populismo possono essere considerate piuttosto limitate, la definizione di popolo nel populismo esclusivo e nel populismo inclusivo è molto diversa. Nel primo caso, il popolo viene definito a partire dalla cittadinanza e dall'etnia. Si fa riferimento alla francesità, all'italianità e alle specifiche caratteristiche che sono da connettersi all'etnia, al popolo originario del paese. In ciò consiste il nativismo della lettura populista esclusiva. Sono i nativi a far parte del popolo perché sono gli unici a garantirne la purezza. Gli altri, immigrati, apolidi, semplici residenti, non possono trovare diritto di cittadinanza. In questa prospettiva non solo è coerente sostenere lo ius sanguinis, ma anche sotto il profilo meramente amministrativo si considerano come estranei i non nativi che pertanto vengono esclusi dai diritti il cui godimento spetta solo ai nativi. Al contrario, nella lettura inclusiva, il popolo è composto da tutti i soggetti che si trovano in un dato territorio in un dato momento e soprattutto include i soggetti che vengono considerati marginali da parte del populismo esclusivo. Non soltanto si sostiene lo ius soli, ma anche sotto il profilo amministrativo si ritiene importante, oltre che giusto, procedere verso l'inclusione di quelle voci che altrimenti risulterebbero escluse. Nel caso italiano la questione è emersa proprio con riferimento alla riforma della legge di cittadinanza. In modo non sorprendente, la Lega era contraria all'introduzione di uno ius soli temperato, mentre il partito Potere al Popolo, nel suo programma elettorale per le elezioni politiche, ha manifestato il suo orientamento favorevole. L'analisi compiuta fin qui ci consente di comprendere, a partire da riferimenti analitici condivisi in letteratura, quali possono essere le differenze nella definizione di populismo, di popolo e di tipi di populismo. Questa non è la sede per dilungarsi troppo su questioni teoriche, ma per un'introduzione compiuta intorno al tema del populismo era indispensabile che le coordinate definitorie e concettuali venissero esplorate, seppure in modo sommario. Tali coordinate hanno evidenziato quanto il fenomeno del populismo possa sfuggire a una facile definizione, ma hanno altresì consentito di fare chiarezza intorno agli elementi salienti del fenomeno e alle sue varie manifestazioni. Le cause del successo neopopulista. Di partiti radicali, soprattutto di estrema destra, si parla da decenni, almeno dall'anno di fondazione del Front National, 1972. Per tutti gli anni 70, peraltro, il Front National e altri partiti della destra radicale ebbero risultati elettorali piuttosto limitati. È soltanto a partire dall'inizio degli anni 80 che tali partiti, sempre più assimilabili a partiti neopopulisti esclusivi, confronta supra, iniziarono a conseguire i primi rilevanti successi elettorali. È in particolar modo a partire dalla metà degli anni 90 che si assiste ad un'impennata. I partiti neopopulisti, nati prima del 1994, sono 23, di cui un partito neopopulista inclusivo e 22 esclusivi. Tra il 1995 e il 2018 nascono 43 partiti neopopulisti, oltre il 65% del totale. 14, cioè il 21% nell'ultimo decennio, dopo l'esplosione della cosiddetta Grande Recessione. Crisi politica, crisi economica, crisi migratoria. Quali sono le ragioni del successo neopopulista? In generale si è fatto ricorso a tre tipi di spiegazioni, tutte relative alla nozione di crisi, cioè ad uno stato di difficoltà o squilibrio traumatico, individuale e o collettivo, che determina un cambiamento cognitivo, valoriale o comportamentale. Le crisi identificate in letteratura riguardano la sfera economica, la sfera politica e la sfera culturale. Ernesto Laclau, in diversi contributi, ha identificato la crisi come elemento scatenante del populismo, esclusivo o inclusivo che sia. La crisi, economica, politica o culturale, destabilizza e nella destabilizzazione si aprono opportunità per l'elaborazione di nuove preferenze individuali e per il rafforzamento o la creazione ex novo di partiti neopopulisti. Tuttavia, le crisi non sono tutte uguali e, perlomeno in linea teorica, ci si potrebbe aspettare un impatto maggiore di alcune crisi su diversi tipi di neopopulismo, ad esempio quella economica sul neopopulismo inclusivo, quella culturale o migratoria sul neopopulismo esclusivo. Più in dettaglio, la crisi economica consiste nella forte contrazione della crescita economica e in linea di principio può determinare un senso di insicurezza derivante dallo squilibrio traumatico in ambito economico. Inoltre, con specifico riferimento al 2007-2008, la crisi economica non è stata solo intensa, ma è stata anche duratura, giacché, soprattutto in alcuni paesi, tra cui l'Italia, la Grande Recessione è stata definita come una Double Deep Recession, o recessione a forma di W, caratterizzata cioè da una contrazione del prodotto interno lordo, PIL, ripetuta in momenti ravvicinati. L'Italia, ad esempio, è stata toccata da un tipo di recessione simile. Come noto, seppure non in modo automatico e in assenza di misure correttive, la contrazione del prodotto interno lordo si traduce tipicamente in una contrazione delle opportunità di lavoro, determinando incertezze che si possono configurare come uno squilibrio traumatico. E tale squilibrio può avere ricadute significative sulle preferenze di voto degli elettori colpiti dalla crisi economica. Ciò determina uno stato di insoddisfazione che si può tradurre in un comportamento elettorale premiante partiti di opposizione non coinvolti nella gestione della crisi economica, in particolar modo se la gestione viene giudicata in modo non lusinghiero. Inoltre, la crisi economica non ha un effetto uguale per tutte le categorie di lavoratori. Ad essere penalizzati sono tipicamente i lavoratori meno qualificati, precari e o irregolari. Un bacino elettorale, come vedremo, da cui pescano diversi partiti neopopulisti. Un'altra crisi considerata da diversi autori è di natura politica e consiste nella progressiva perdita di capacità di rappresentanza da parte dei partiti e delle istituzioni. Tale crisi potrebbe ulteriormente essere distinta in crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni, Parlamento, Governo, nei confronti dei partiti o della democrazia tout court. Non è questa la sede appropriata per entrare nel dettaglio delle sottocrisi politiche. Tuttavia, se volessimo identificare un soggetto particolarmente rilevante della crisi politica, parrebbe opportuno concentrarsi sulla crisi di fiducia nei confronti dei partiti esistenti, quelli che potremmo definire tradizionali o mainstream. A tale riguardo, una delle spiegazioni politiche più diffuse del fenomeno neopopulista ha chiamato in causa la progressiva incapacità dei partiti politici di rispondere alle preferenze dell'elettorato e diventare, in generale, classe politica o casta, in cerca principalmente della propria rielezione e non del benessere del popolo. Una sfiducia, quindi, non nei confronti di un partito specifico, bensì nei confronti del sistema dei partiti, sempre più lontano dai cittadini e dalle loro esigenze. Prendendo ad esempio il caso italiano, nel corso degli anni il calo di fiducia nei confronti dei partiti è stato continuo e tale da mettere in discussione anche la democrazia rappresentativa in quanto regime politico. E a partire da tale crisi viene costruita una propaganda anticasta da parte dei nuovi soggetti partitici neopopulisti che si mobilitano intorno a questa potenziale linea di frattura. Il popolo da una parte, i partiti e i politici dall'altra. La democrazia rappresentativa è il principale strumento di rappresentanza in democrazia. I partiti vengono criticati a causa della loro presunta incapacità di rappresentare i veri interessi del popolo. I partiti e i politici, con tutti i loro presunti privilegi, vengono visti come un mondo a parte rispetto al mondo reale di chi arriva a fine mese con difficoltà. I politici dei partiti tradizionali diventano il nemico, i parassiti, gli sfruttatori della dabbenaggine degli elettori buoni del popolo puro. È una crisi, dunque, che viene tematizzata, ampliata e sfruttata da parte dei nuovi imprenditori politici, i partiti neopopulisti, che, non compromessi da attività di governo o da scandali simili a quelli che hanno toccato i partiti tradizionali, riescono a proporsi come politici per passione e non per professione. A tal riguardo, l'esempio del Movimento 5 Stelle è molto calzante. Primo, si caratterizza come un movimento e non come un partito, proprio per segnalare fin dal nome la differenza rispetto ai partiti tradizionali. Secondo, il documento fondativo del partito Movimento 5 Stelle è inizialmente il non statuto, anch'esso un documento che vuole differenziarsi dall'ufficialità degli statuti dei partiti tradizionali. Terzo, gli eletti sono sottoposti a rigide regole, seppure talvolta disattese, che sono state reiterate e rinforzate in occasione dell'ultima tornata elettorale del 2018. Ad esempio, esiste il vincolo del doppio mandato. Secondo il nuovo codice etico del Movimento 5 Stelle, per gli aspiranti candidati non è possibile presentare la propria candidatura qualora siano già stati esperiti dall'iscritto numero 2 mandati elettivi. Oppure, in caso di espulsione, abbandono o dimissioni, i parlamentari sono tenuti al versamento di 100.000 euro a titolo di indennizzo. Infine, l'autoriduzione dello stipendio da parlamentare, previsto dal nuovo regolamento relativo al trattamento economico degli eletti del Movimento 5 Stelle, pubblicato in rete il 28 giugno 2018, a 3.250 euro netti mensili. Sono tutte misure atte a confermare la differenza ontologica tra il partito neopopulista, il Movimento 5 Stelle, e gli altri partiti. La terza crisi è una crisi di matrice culturale. È sempre difficile caratterizzare la nozione di cultura, ma essa è stata chiamata in causa con particolare riferimento al senso di disorientamento culturale derivante dalle ondate migratorie, in particolar modo quelle più recenti. A partire dalla fine degli anni Ottanta le ondate migratorie si sono moltiplicate e attualmente nei paesi europei il 10-20% della popolazione residente è nato in un paese non membro dell'Unione Europea. In tempi ancora più recenti, l'ondata di richiedenti asilo, che ha toccato un picco nel 2005, ha ulteriormente ampliato gli spazi di manovra per i partiti che hanno fatto della condanna dell'immigrazione un cavallo di battaglia. La crescita della popolazione immigrata ha determinato nuove opportunità di sviluppo per i partiti incentrati sul mantenimento delle tradizioni locali e diffidenti verso il multiculturalismo. I primi partiti a tematizzare l'immigrazione come un problema politico sono stati quelli tradizionali di estrema destra. Più di recente, quello della presunta invasione da parte degli immigrati è diventato un tema anche per altri soggetti politici, i partiti neopopulisti, in particolare i partiti esclusivi. E ciò è avvenuto anche in contesti nei quali l'immigrazione è più contenuta che in altri paesi, mostrando come non vi sia solo una questione relativa ai numeri dell'immigrazione, bensì anche alla percezione negativa dell'immigrazione stessa. Alcuni partiti neopopulisti hanno impostato molte campagne elettorali recenti a partire dalla necessità di proteggere prima i nativi, come il già ricordato slogan di Salvini «Prima gli italiani» o quello di Trump «America first», a discapito di protezioni più universalistiche, rivolte anche a cittadine e cittadini immigrati. Ciò non ha riguardato tutti i partiti neopopulisti, ma principalmente, come vedremo in seguito, i partiti neopopulisti esclusivi, giacché i partiti inclusivi hanno mantenuto un atteggiamento, se non propriamente favorevole agli immigrati, come Podemos, perlomeno ambiguo, come il Movimento 5 Stelle. La crisi culturale derivante dalle ondate migratorie va discussa con un certo grado di dettaglio. Pare piuttosto evidente quale sia lo squilibrio traumatico con riferimento all'immigrazione. Persone con culture e tradizioni, usi e costumi diversi si trovano a condividere, in alcuni casi da un giorno all'altro, spazi che prima erano ad uso esclusivo dei nativi. In un contesto in cui la sicurezza viene percepita sempre più come un problema, in cui la fiducia interpersonale è in contrazione, la presenza di persone altre può costituire uno shock culturale o uno squilibrio traumatico. E gli immigrati, i momenti di crisi di altra natura, politica e soprattutto economica, diventano con una certa facilità capri espiatori, nemici o approfittatori di uno stato sociale che sovente è sotto pressione. E ciò vale anche in quei casi in cui vi è notevole evidenza empirica che gli immigrati siano di beneficio per alcune politiche di welfare, come nel caso della politica pensionistica, che grazie ai contributi dei lavoratori immigrati si mantengono in maggiore equilibrio o in minore disequilibrio. È la percezione che conta. Ad esempio, nel contesto italiano, in seguito alla crisi economica, la percezione negativa nei confronti dei migranti è cresciuta in modo significativo. Prima del 2008, meno del 40% della popolazione dichiarava di percepire in modo negativo l'immigrazione, mentre nel 2016 tale percentuale era salita al 70%, con una punta che ha sfiorato l'80%. E poi si è assestata. Da questi dati emerge con forza come tematizzare il nemico immigrato possa pagare elettoralmente. Oltre ai flussi migratori, va anche ricordato l'impatto del terrorismo internazionale sul senso di insicurezza dei cittadini occidentali. L'idea che gli stranieri, e in particolare gli stranieri di fede musulmana, siano dei probabili terroristi ha preso piede nei social media, sempre più importanti fonti di informazione, infra, e nei commenti dei leader neopopulisti esclusivi. In questo modo è stata versata altra benzina sul fuoco che ha permesso ai partiti anti-immigrati di raccogliere i frutti delle campagne elettorali incentrate sulla difesa dei nativi. La tempesta perfetta. Atto primo. L'impatto della crisi sui partiti neopopulisti. Le tre crisi ricostruite nel paragrafo precedente nel contesto europeo hanno avuto dimensioni, caratteristiche e dinamiche differenti. In particolare l'intensità è stata molto diversa. La crisi politica ha riguardato principalmente i paesi dell'Europa occidentale. La crisi economica, i paesi dell'Europa meridionale e alcuni paesi periferici. La crisi migratoria, in modo diverso, ha toccato tutti i paesi. È evidente che a maggiore intensità di crisi corrisponderà una probabile maggiore intensità di impatto. Una ricerca condotta da Manuela Cagliani e da chi scrive mostra come in linea generale la combinazione delle crisi spieghi in larga misura il successo dei partiti neopopulisti e che nel caso dei partiti neopopulisti esclusivi il fattore più importante per il consolidamento del successo risiede nella percezione negativa dell'immigrazione, in combinazione con la crisi economica, mentre il successo dei partiti neopopulisti inclusivi dipende maggiormente dalla crisi economica. In altri termini, il mutato contesto derivante dalle crisi sopra evocate ha consentito a nuovi partiti neopopulisti di costruire un consenso crescente tra i perdenti nelle tre accezioni possibili. Abbandonati dai partiti, marginalizzati dalla globalizzazione, attaccati nella propria identità nazionale dagli immigrati. E a causa dell'interazione delle tre crisi è stata possibile una maggiore sovrapposizione o accumulazione di squilibri che a sua volta ha determinato l'espansione più o meno repentina dei partiti neopopulisti europei. Essi hanno enfatizzato la propria offerta politica sotto il versante della protezione dalle crisi e, non essendo contaminati dalla sfiducia né dalla gestione delle politiche di austerità, sono riusciti a raccogliere consensi soprattutto nella fascia più vulnerabile della popolazione. Ciò è vero per quei casi in cui nel corso degli ultimi anni i partiti erano all'opposizione, mentre va sottolineato come, laddove le crisi economica e migratoria erano limitate, come in Polonia e Ungheria, il neopopulismo esclusivo sia riuscito a conquistare il governo e a rafforzarsi attraverso la limitazione del pluralismo informativo. In effetti, in tali paesi la continuità di governo ha mostrato come i partiti neopopulisti, in condizioni di crisi limitata, possano riuscire a governare e contestualmente rafforzare il proprio consenso elettorale, a detrimento del principio democratico del pluralismo. Come argomenteremo meglio nelle considerazioni conclusive, il neopopulismo esclusivo può costituire una minaccia per la democrazia. O perlomeno questo è ciò che si può sostenere da un'attenta analisi dei casi Polonia e Ungheria, dove i partiti neopopulisti esclusivi sono stati al governo più a lungo. La tempesta perfetta, atto secondo, l'impatto delle crisi sui cittadini e elettori. Specularmente ai meccanismi che hanno portato al successo dei partiti neopopulisti, è necessario comprendere le ragioni per le quali i cittadini elettori hanno deciso di premiare tali partiti in modo crescente. Due sono le interpretazioni prevalenti. Il voto come semplice protesta derivante da una crescente disaffezione nei confronti dei partiti tradizionali al governo in tempi recenti. Una sorta di voto strumentale e potenzialmente molto fluttuante. È un voto più strutturato in termini di intensità di preferenza e potenziale durata. Da un lato si interpreta il voto ai populisti come un fuoco di paglia destinato a durare solo per alcune tornate elettorali fino al momento in cui si troveranno a governare. Dall'altro, un voto considerato più ponderato e derivante da una capacità di attrazione dei partiti neopopulisti che si esprime al di là della contingenza. Ma prima ancora che l'impatto delle crisi sugli elettori, risulta necessario comprendere il possibile impatto delle crisi sui cittadini. In linea generale, collegandosi direttamente ai tre tipi di crisi sopra evocati, è possibile identificarne l'impatto sotto tre aspetti: insoddisfazione, incertezza e insicurezza. L'insoddisfazione è determinata dall'incapacità dei partiti di fornire risposte considerate efficaci. Tale insoddisfazione può essere considerata come la causa primaria del declino della fiducia nei confronti dei partiti e del relativo crollo delle iscrizioni registrato nel corso degli ultimi 20 anni e nei confronti delle istituzioni, specialmente nei contesti di crisi economica. In tale quadro si aprono spazi di fiducia per partiti nuovi. Il meccanismo, pertanto, è piuttosto elementare. Insoddisfazione politica di lungo corso, aggravarsi della situazione economica o lavorativa, punizione elettorale nei confronti dei partiti tradizionali, al governo o all'opposizione che fossero. Preferenza di voto accordata ai partiti nuovi o più recenti, spesso neopopulisti. In altri termini, l'insoddisfazione politica nei confronti di partiti tradizionali si traduce in un, più o meno relativo, successo elettorale dei partiti neopopulisti. Prima ancora che nutrire insoddisfazione politica appena accennata, la crisi economica ha avuto un effetto diretto nella percezione di incertezza economica registrata, tra gli altri, dagli indicatori dell'Eurobarometro, sondaggio semestrale condotto dalla Commissione europea. E l'incertezza ha determinato maggiori preoccupazioni in tema di occupazione e povertà, inducendo preferenze specifiche anche in termini di libero commercio internazionale e protezionismo. Ne sono esempi il fallito tentativo di stringere un accordo di libero scambio commerciale tra Stati Uniti ed Europa, TTIP, e le difficoltà incontrate dall'accordo di scambio commerciale tra Canada ed Europa, CETA. Oppure, nel caso del voto protezionista dei cittadini britannici favorevoli a lasciare l'Unione Europea, uno dei fattori esplicativi più rilevanti è stato identificato proprio nell'apertura commerciale. Tanto maggiore è stata l'apertura commerciale, tanto maggiore è stata la propensione a votare per partiti populisti esclusivi. Infine, il capro espiatorio. Gli immigrati e l'insicurezza derivante dalla diffusione spettacolare di attentati terroristici e dall'incremento del numero di richiedenti asilo. La tematizzazione dell'immigrazione come causa di maggiore criminalità e la costruzione di un nemico sotto forma del diverso ha riguardato moltissimi leader politici, sia dell'estrema destra, sia dei partiti populisti esclusivi. Da Orbán a Salvini, passando per Jean-Marie Le Pen e per Geert Wilders. Tale atteggiamento, peraltro, non ha riguardato solo i partiti politici e attraverso l'attivismo virtuale dei loro leader, i social media, ma anche i media tradizionali. A tal riguardo, sebbene le interpretazioni non siano unanimi, gran parte della letteratura esistente conferma l'ipotesi secondo la quale i media convenzionali, e in particolar modo i media conservatori o vicini a imprenditori politici interessati a creare un contesto di paura, avrebbero incrementato la percezione negativa dell'immigrazione, enfatizzandone gli aspetti negativi e sottolineando le notizie di reato connesse agli immigrati. Ciò ha evidentemente alimentato un senso di insicurezza. E il nesso insicurezza-immigrati, che è stato poi registrato in numerose rilevazioni dell'opinione pubblica europea. Per concludere sul punto, le tre crisi hanno determinato l'apertura di spazi politici molto rilevanti per i partiti politici neopopulisti che, in quanto nuovi, sono riusciti a tenersi lontano dalla generale e crescente ondata di sfiducia diffusasi in molti paesi europei. La tempesta perfetta, o lo scenario ideale, perché numerosi partiti neopopulisti, in particolare esclusivi, potessero guadagnare consensi elettorali fino al coinvolgimento in numerose compagini governative, come ad esempio in Austria, in Italia, in Danimarca, in Norvegia e nei Paesi Bassi. Più in generale, la combinazione delle tre crisi e il loro impatto su una porzione crescente della popolazione, insieme all'abilità imprenditoriale di leader politici neopopulisti, hanno reso possibile successi fino a pochi anni fa fuori dalla loro portata. E, anticipando una discussione che svolgeremo in sede di conclusione, poiché le tre crisi hanno lasciato e stanno lasciando tracce destinate a durare, anche i neopopulismi sono destinati a durare. I partiti neopopulisti esclusivi. Come abbiamo già visto in modo sommario, l'ondata neopopulista non è un fenomeno recente. È recente il successo travolgente, così come la nascita e il consolidamento di alcuni nuovi tipi di partiti neopopulisti inclusivi. In questo capitolo analizzeremo in modo estremamente sintetico i neopopulismi a partire dalle tre dimensioni identificate nel primo capitolo: ideologia, stile comunicativo e organizzazione. Tuttavia, prima di procedere, va segnalata un'ulteriore difficoltà: la natura camaleontica dei partiti neopopulisti. Per certi versi, tutti i partiti politici possiedono tale caratteristica, e cioè sono propensi all'adattamento della propria offerta politica in funzione della domanda proveniente dal corpo elettorale. E ciò è ancora più probabile in un contesto di diffusione istantanea dell'informazione, l'informazione in tempo reale che determina maggiori pressioni sui partiti circa la capacità di fornire risposte in tempi rapidi. Resta però una particolare capacità camaleontica dei partiti neopopulisti, resa particolarmente facile dalla natura debole della loro ideologia. Confronto sopra. Ad esempio, la trasformazione in partiti neopopulisti di partiti di estrema destra, come nel caso del Front National, oppure la matrice etno-regionalistica, come nel caso della Lega, è una spia della maggiore capacità evolutiva di tali partiti. Dei partiti neopopulisti esclusivi ci occuperemo in questo capitolo. Nel capitolo successivo tratteremo invece i partiti neopopulisti inclusivi. Front National. Il Front National FN nasce nel 1972 come un partito di estrema destra, nazionalista, antisemita, negazionista. Si colloca fin da subito nell'alveo della tradizione postfascista europea che fa appello ai sentimenti dei veri francesi contro gli stranieri. Un'ideologia non così sottile che echeggia slogan di reduci dalle guerre di Algeria e Indocina. Lo stesso Jean-Marie Le Pen, il fondatore, è un veterano di entrambe le guerre. Sotto il profilo economico, non è tanto il protezionismo, che diventerà centrale nell'elaborazione politica successiva, ad essere evocato, bensì, soprattutto nel corso degli anni Ottanta, l'ideologia neoliberale, in cui l'egualitarismo non ha diritto di cittadinanza. Lo stile retorico è neopopulista fin dall'inizio della traiettoria del partito di Jean-Marie Le Pen, e ciò rimarrà una costante, forse uno dei pochi tratti che non cambiano nel corso del tempo. Tale aspetto viene anzi accentuato dalla leadership più recente. Infatti lo stile comunicativo diventa ancora più marcatamente neopopulista quando, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, diversi rappresentanti del partito, tra cui lo stesso Le Pen, rivendicano orgogliosamente l'etichetta di neopopulista, da intendersi come politico desideroso di assecondare l'opinione del popolo, definito in primis in senso sovranista e nazionalista, anche se con crescenti venature di classe. Infine, l'accentramento nella figura del carismatico Le Pen delle leve del potere del partito risulta confermato da diversi studi relativi all'organizzazione del partito, che rimane saldamente nelle mani del fondatore fino all'affermazione della figlia, Marine. Tale accentramento continuerà anche col contrastato passaggio del testimone a Marine Le Pen, che manterrà una forte personalizzazione della leadership e un rigido controllo sul partito. Sotto il profilo del successo elettorale, fino alla metà degli anni Ottanta, il Front National rimane al di sotto del 10% a livello nazionale, mentre in seguito conosce una certa progressione che culmina nel clamoroso successo del 2002, quando Jean-Marie Le Pen passa al secondo turno delle elezioni presidenziali. In quel momento il mondo si accorge della rilevanza del partito. Inizialmente, come anche per gli altri partiti neopopulisti esclusivi, si pensa che sia un voto di protesta. Analisi più attente, e in parte molto più recenti, mostrano come la metamorfosi verso il nazionalpopulismo si compia già a partire dagli anni Ottanta, in prossimità del primo vero successo elettorale del 1984, quando il Front National supera la soglia simbolica del 10% alle elezioni europee. Tuttavia, la matrice neopopulista del FN si dispiega in modo talvolta contraddittorio e i risultati elettorali non sono particolarmente brillanti fino alla sua definitiva consacrazione neopopulista avvenuta tra il 2009 e il 2010, segnata da un discorso del 2010 divenuto celebre. La mutazione è completa. La svolta neopopulista viene accelerata dal riorientamento ideologico volto alla de-ostracizzazione, de-diabolisation, e sostenuta dalla nuova leader che appoggia l'espulsione del padre a causa del mancato ripudio del proprio negazionismo. È l'ultimo tassello di una strategia di riorientamento politico. Nel gennaio del 2018 il partito cambia nome in Rassemblement National, un segnale estremamente chiaro di normalizzazione del partito, che nell'estate del 2018 ottiene circa il 18% nei sondaggi politici francesi. La traiettoria del Front National è di estremo interesse perché mostra in modo paradigmatico la progressiva crescita della natura neopopulistica dell'offerta politica, senza la quale, con ogni probabilità, il partito difficilmente avrebbe migliorato il risultato del 1984. La comunità, sotto il profilo dello stile comunicativo e organizzativo, è stata accompagnata da una progressiva accentuazione dell'ideologia sottile neopopulista, che ha posto l'accento sulla contrapposizione tra il popolo, definito principalmente in funzione nazionalista, e l'élite. Il Rassemblement National è ora un attore di primo piano nella politica francese e non vi sono segnali che facciano pensare a un suo prossimo ridimensionamento. Freiheitliche Partei Österreichs. Un altro partito neopopulista, esclusivo, di grande rilievo e durata, è il Partito della Libertà Austriaco, Freiheitliche Partei Österreichs. Diventato progressivamente neopopulista in seguito all'ascesa del leader Jörg Haider. Anche la traiettoria del partito austriaco illustra un percorso di normalizzazione di un partito di estrema destra, non del tutto dissimile nella forma, sebbene non nei tempi, rispetto al caso del Front National, Rassemblement National. Infatti il partito viene fondato nel 1956 da un ex ufficiale nazista e per oltre un trentennio risulta estremamente marginale nel contesto politico austriaco, ottenendo risultati elettorali del tutto trascurabili e un numero limitato di rappresentanti eletti nella Camera Bassa. La svolta neopopulista si compie nel corso degli anni Ottanta, in particolare a partire dalla leadership di Jörg Haider, 1989, il quale, dopo una non facile vittoria interna, riorienta in modo considerevole e piuttosto repentino i riferimenti ideologici del partito, allontanandolo da tentazioni reducistiche e incentrando la proposta politica sull'importanza della patria, Heimat, e sull'identificazione di un nemico, gli immigrati, dipinto come un pericolo per i cittadini austriaci. Prima di tutto l'Austria è una delle prime iniziative politiche, che per la verità non riscuote un grande successo. Nel corso degli anni 90, in occasione dei dibattiti che portano l'Austria ad entrare nell'Unione Europea accanto ai nemici tradizionali, gli immigrati, si affiancano altri nemici, la vecchia classe politica e la nuova burocrazia di Bruxelles, che metterebbe a repentaglio la sovranità nazionale austriaca. Haider lascia il partito nel 2005. E il successore e attuale leader, nonché vicecancelliere Heinz Christian Strache, rafforza la caratterizzazione neopopulista, accentuando l'identificazione dei nemici del popolo austriaco negli immigrati e nell'eurocrazia. Complessivamente, ancora di più nel caso del Front Rassemblement National, il popolo non viene definito se non per differenza. Non appartengono al popolo in prima battuta gli immigrati e in seconda battuta le forze politiche tradizionali e le istituzioni europee. Più in dettaglio, l'ideologia del Partito della Libertà austriaco, improntata principalmente sulle esigenze dell'uomo comune e sul buonsenso, è un'ideologia nativista, molto sottile perché, oltre al pangermanismo, è prevalentemente incentrata sulla difesa dei semplici cittadini austriaci ed è a favore di politiche sociali rivolte prima di tutto agli austriaci. Sotto questo profilo, le differenze tra la leadership di Haider e quella di Strache non sono particolarmente significative. Strache insiste ancora di più sulla necessità di mettere l'Austria prima di tutto, anche con un rap uscito nel 2006. Lo stile comunicativo è sviluppato in modo da identificare e demonizzare il nemico, gli stranieri, oltre all'establishment, insistendo sulla necessità di costruire un nuovo corso, al cui centro si collochi il Partito della Libertà austriaco. Infine, perlomeno a partire dalla guida di Haider, numerosi studi hanno messo in evidenza la forte centralizzazione del potere nelle mani del presidente del partito e la personalizzazione della comunicazione politica del partito. Anche in questo caso la traiettoria neopopulista del partito mostra come il riposizionamento ideologico operato da Haider e da Strache abbia pagato in termini elettorali. In occasione delle più recenti elezioni presidenziali, 2016, un candidato dell'FPO è stato sconfitto di misura dall'attuale presidente austriaco, Alexander Van der Bellen. Alle ultime elezioni politiche, 2017, il partito ha conseguito uno dei migliori risultati della sua storia, ottenendo il 26% dei voti, entrando in un governo di coalizione col Partito Popolare Austriaco e ottenendo, oltre al vice cancellierato, 4 ministeri, tra cui quello degli interni. Una strategia di indubbio successo, che ha portato nel giro di un paio di decenni un partito minoritario a essere estremamente rilevante sulla scena politica austriaca ed europea. Dansk Folkeparti. Un altro caso è il Partito Popolare Danese. Fondato nel 1995 da Pia Kjærsgaard, Christian Tulsendal, Poul Nugard e Ole Donner, fin dall'inizio della sua storia si posiziona nell'ambito del neopopulismo esclusivo. Nello spiegare le ragioni del nome del partito, la leader Kjærsgaard dichiara che vi sono diversi partiti popolari, ma il popolo non si sente realmente rappresentato da nessuno di questi, e che il partito si chiama danese perché siamo orgogliosi di essere danesi. Una sintetica dichiarazione di intenti in termini di identificazione di popolo-nazione, a cui progressivamente si aggiunge anche una declinazione più sovranista. A causa della centralità del welfare nel contesto scandinavo, l'ideologia sottile si basa sulla costruzione dell'antagonismo tra il popolo danese e gli altri, in particolare gli immigrati, che vengono visti come soggetti lesivi dei diritti sociali acquisiti dai nativi danesi. Sotto il profilo dello stile comunicativo, similarmente agli altri casi analizzati, il nemico viene identificato principalmente negli immigrati e, più in generale, in tutti coloro che non si riconoscono nella danesità. Si fa appello all'emotività dei danesi. Le argomentazioni razionali sono limitate e per lo più accessorie rispetto al discorso centrale improntato sulla necessità di difendersi dall'invasione degli immigrati. Invasione inventata, dati i numeri comparativamente limitati sul fenomeno migratorio in Danimarca. Ma è un discorso utile ad affermare che solo il Partito Popolare Danese è da considerarsi in grado di rappresentare realmente il popolo danese e tutelarlo dagli immigrati. Il multiculturalismo viene visto come un fenomeno da contrastare. A differenza degli altri partiti, il Partito Popolare Danese non sembra così ancorato sulla personalizzazione della leadership. Il ruolo della cofondatrice Kjærsgaard è certamente importante, ma il grado di personalizzazione appare inferiore. Nel 2012 è la stessa leader Kjærsgaard a cedere la leadership a Christian Tulsen Dale, che attualmente dirige il partito. Dale ha dato continuità all'azione politica del partito, sostenendo in Parlamento il governo di minoranza guidato dal partito liberale Venstre. A differenza degli altri partiti analizzati fin qui, il Partito Popolare Danese nasce come partito neopopulista. Non è una coincidenza che il partito venga fondato nel 1995, quando lo spirito neopopulista muoveva i primi passi in varie parti d'Europa. Tuttavia, va ricordato che i primi risultati elettorali non lo pongono tra i partiti più forti sulla scena politica danese. Anche se tra il 2001 e il 2011, grazie al sistema multipartitico, svolge un ruolo di sostegno esterno a vari governi di minoranza. L'exploit elettorale del 2015, 21,1%, sfiorando il doppio dei voti del 2011, conferma l'acquisita centralità politica. Il successo del 2015 giunge come conseguenza di un rafforzamento derivante dal perdurare della crisi economica, dagli effetti della paura del terrorismo internazionale. Nel febbraio del 2015, a pochi mesi dalle elezioni a Copenaghen, un danese di origini arabe cerca di fare una strage in occasione di un convegno sull'Islam, causando un morto e 3 feriti. E dalla capacità dei responsabili politici del partito di improntare la campagna elettorale sul welfare chauvinism, cioè sull'enfatizzazione crescente della necessità di destinare risorse ed erogare servizi sociali prima di tutto ai danesi e di ridurre la spesa pubblica per gli immigrati. In sintesi, il caso danese è emblematico di come la combinazione delle 3 crisi, quella politica che ha portato alla fondazione del Partito Popolare nel 1995, quella economica che in Danimarca ha avuto una durata maggiore che altrove, e quella migratoria, in particolare sotto il profilo della percezione, abbia determinato il consolidamento elettorale di un partito considerato secondario. Partì Vordi Vrijheid. I Paesi Bassi hanno una storia neopopulista particolarmente movimentata, giacché sono testimoni della fondazione di un primo partito neopopulista esclusivo, capeggiato da Pim Fortuyn, dell'assassinio di un regista, Theo van Gogh, di film giudicati da più parti anti-islamici, e l'ascesa di un nuovo partito, il Partito della Libertà, guidato da Geert Wilders, figura di spicco dell'opposizione attuale del governo olandese. Pim Fortuyn è il primo politico olandese ad essere considerato rappresentante del neopopulismo esclusivo, sebbene abbia sempre rifiutato di essere paragonato a Le Pen o a Haider. Fortuyn esordisce in politica nelle file di un altro partito neopopulista esclusivo, Leefbaar Nederland, che nella sua breve vita, 1999-2007, non ottiene un grande successo elettorale. Successivamente, con la fondazione della lista Fortuyn, il leader ottiene visibilità e notorietà fino al suo assassinio, compiuto nel 2002, da parte di un attivista ambientalista. L'assassinio a pochi giorni dalle elezioni favorisce il successo postumo del leader politico. La lista ottiene il 17,1% dei voti e il partito diviene un membro della coalizione di governo olandese, caratterizzato da una vita molto breve. La lista Pim Fortuyn non sopravvive a lungo alla morte del suo fondatore e si scioglie ufficialmente nel 2008. Il caso Fortuyn mostra però come i Paesi Bassi, caratterizzati da lunga tradizione multiculturale, siano ormai un terreno fertile per il neopopulismo esclusivo. L'assassinio di Van Gogh da parte di un estremista islamico nel novembre del 2004 rende il clima politico ancora più favorevole a una retorica anti-islamica, facilitando non poco l'ascesa di Wilders. Quest'ultimo fonda il Partito della Libertà nel 2006, dopo essersi impegnato sul fronte per il no nella campagna elettorale relativa al referendum indetto per l'approvazione della Costituzione europea. Il partito si espande rapidamente, sostenendo il primo governo Rutte tra il 2010 e il 2012. Sotto il profilo dell'articolazione ideologica, similmente agli altri casi analizzati, il Partito della Libertà definisce per lo più implicitamente il popolo olandese, identificando il nemico. In prima battuta i musulmani e, più in generale, gli immigrati provenienti dai paesi musulmani. In seconda battuta Wilders mette in contrasto i cittadini, il popolo e l'élite nazionale ed europea, colpevoli di essersi allontanate dai reali bisogni della popolazione. L'euroscetticismo è una parte integrante della sottile ideologia del Partito della Libertà, giacché l'élite, considerata come nemica del popolo olandese, non è solo quella nazionale, bensì anche quella europea, contro la quale Wilders si era già battuto nella contesa referendaria del 2005. Lo stile comunicativo di Wilders è molto coerente con l'ideologia. La pars destruens, e cioè la costruzione del nemico, riguarda l'establishment e l'incapacità dei partiti tradizionali di fronteggiare l'ascesa dell'immigrazione e contiene toni apocalittici che fanno appello all'emotività dei cittadini, realizzando, ad esempio, un video documentario fortemente denigratorio del Corano. La pars construens è rappresentata dal Partito della Libertà stesso, unico soggetto che può consentire ai cittadini di riappropriarsi del potere e limitare l'ingresso di immigrati, specie se provenienti dai paesi musulmani. Anche in occasione dell'ultima campagna elettorale, Wilders insiste a più riprese sul tema come il più importante sul quale esprimere il voto. Infine, sotto il profilo organizzativo, la centralizzazione e la personalizzazione sono particolarmente evidenti. Il Partito della Libertà olandese è giuridicamente un'associazione di cui fa parte solo Wilders. Non vi sono iscritti, non vi sono congressi, non vi sono sezioni giovanili. A tal riguardo, nel 2012, alcuni parlamentari eletti contestano Wilders, ma perdono la loro battaglia e si dimettono. Il partito, ad oggi, è costituito di due soggetti, chiaramente riconducibili alla stessa persona: Geert Wilders e la fondazione Geert Wilders. Pur avendo ottenuto un risultato non così brillante nelle ultime elezioni, 13,1%, il Partito della Libertà continua a rivestire un ruolo di rilievo nello scenario politico olandese ed europeo e rimane un possibile modello organizzativo per partiti che vorranno occupare analoghi spazi politici in altri contesti nazionali. Fidesz. Spostando il fuoco geografico della nostra analisi e passando all'Europa centro-orientale, è necessario fare una premessa. Come visto fin qui, le variazioni nazionali di neopopulismo sono parzialmente diverse, ma anche nei contesti dell'Europa meridionale sono fenomeni che si sono verificati all'interno di contesti democratici consolidati. Il caso dell'Europa centro-orientale è differente. Come è noto, è solo a partire dai primi anni 90 che tali paesi conoscono un processo di democratizzazione, in alcuni casi, peraltro, non del tutto compiuto. Per tali ragioni, il populismo ha sperimentato un percorso peculiare perché intrecciato alla democratizzazione. E ciò ha dato vita, ad esempio, ad una proliferazione dei partiti populisti. Sui 66 casi censiti, vi è una media di oltre 3 partiti populisti per paese, media molto più alta che negli altri casi dell'Europa occidentale. Ciò trova spiegazione nella fragile natura delle democrazie centro-orientali e nella loro istantanea personalizzazione della politica democratica. A ciò si aggiunge una facile identificazione di nemici, quali l'establishment rappresentato non solo dal vecchio regime, ma, come vedremo meglio nel caso ungherese, anche da partiti politici accusati di aver tratto profitto dalle liberalizzazioni e privatizzazioni successive al crollo dei precedenti sistemi politici ed economici. Come visto, l'Ungheria è il paese in cui il risultato elettorale dei partiti populisti è il più elevato. La somma dei voti ottenuti alle elezioni più recenti dai due partiti populisti esclusivi più importanti, Fidesz e Jobbik, sfiora il 70% del totale. Fidesz, Fjotal Demokratak Sovetsege, è il partito dell'attuale primo ministro Viktor Orban, in carica dal 2010 e tra il 1992 e il 1998. Già fervente oppositore del regime comunista, Orban aderisce al nuovo partito Fidesz e ne diviene in breve tempo presidente, nel 1993. Da allora Fidesz è il più importante partito ungherese, conseguendo vittorie elettorali nette nelle ultime 3 elezioni politiche. L'ideologia sottile emerge con riferimento alla patria ungherese e alla necessità di evitare che venga invasa da immigrati non cristiani e governata da organizzazioni internazionali e dall'Unione Europea. La comunità immaginata è quella nazionale, in cui la definizione di popolo è implicitamente connessa alla nazione e, in seconda battuta, alla capacità di esercitare sovranità all'interno dei confini nazionali. La relazione antagonistica si sviluppa non tanto col vecchio regime o con altri partiti al governo, essendo Fidesz al governo ininterrottamente da quasi un decennio, bensì nei confronti delle organizzazioni internazionali e dell'Unione Europea. Lo stile comunicativo è interamente incentrato su una retorica che insiste sulle capacità di Fidesz di essere l'unico partito capace di rispondere alle esigenze dei cittadini ungheresi, difendendoli da una possibile scomparsa. L'appello all'emotività nelle comunicazioni di Orban è evidente e molto raramente il primo ministro sviluppa ragionamenti articolati. Infine, il partito ruota intorno alla personalità e alla leadership di Orban e a partire dalla metà degli anni 90 si consolida attraverso la trasformazione di un movimento giovanile in un vero e proprio partito, rifondato da Orban stesso. Orban svolge un ruolo estremamente importante nella selezione dei candidati nei vari contesti elettorali, e ciò ovviamente ne rafforza il potere all'interno del partito. Il caso ungherese è quello in cui emergono con maggiore evidenza i tratti esclusivi del neopopulismo, anche a causa del suo successo, che nelle ultime 3 tornate elettorali 2010, 2014 e 2018, si traduce in una maggioranza parlamentare assoluta. Un'ideologia sottile, e in alcuni casi non così sottile, basata sulla valorizzazione della patria, sulla necessità di difendersi dall'invasione di stranieri e dalle ingerenze dell'Unione Europea nell'esercizio della sovranità popolare ungherese. Orban stesso, in un discorso del 2014 diventato celebre, teorizza in modo provocatorio la possibilità di una democrazia illiberale, e cioè non tanto incentrata sulla rilevanza dell'individuo e della protezione dei diritti civili individuali, bensì sulla centralità della comunità e sulla necessità di preservarla da ingerenze esterne, immigrati o eurocrati che siano. United Kingdom Independence Party. L'ultimo caso considerato in questa breve rassegna di partiti esclusivi è l'United Kingdom Independence Party, UKIP, che ha riscosso tanta attenzione mediatica nel corso degli ultimi anni a causa del suo ruolo determinante nel creare le condizioni politiche per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, Brexit. La storia di UKIP richiama molto da vicino la nascita dei partiti neopopulisti esclusivi scandinavi intorno alla metà degli anni 90. UKIP nasce nel 1993 con un obiettivo dichiarato fin nel nome del partito: ottenere la fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il profilo anti-europeista è evidente fin dalla nascita, così come è evidente il ruolo giocato dal fondatore e leader del partito, Nigel Farage. Va ricordato, tuttavia, che inizialmente il ruolo più importante è ricoperto da un professore della London School of Economics, Alan Skid, che in un'intervista illustra in modo lucido le ragioni della fondazione del partito. Le persone normali dovrebbero gestire le proprie questioni in autonomia e non vogliamo essere governati da un comitato di burocrati non eletti. All'iniziale orientamento anti-europeista, con l'ascesa alla segreteria del partito di Farage, 2006, si aggiunge con forza crescente il tema della necessità di contenere l'immigrazione. L'ideologia sottile, in cui è centrale la definizione del popolo normale come un popolo che vuole governarsi da solo e non essere governato da un comitato di burocrati non eletti, si arricchisce di un nuovo nemico, l'immigrato. Inoltre, l'ulteriore bersaglio intermedio della critica di Farage diventa la classe politica britannica, che ha consentito con l'incremento degli immigrati, in particolare in seguito all'allargamento del 2004, di ridurre i servizi pubblici erogati ai cittadini britannici. Nel caso di UKIP, l'accezione con la quale viene utilizzata la nozione di popolo è netta. Il popolo deve essere sovrano e non deve sottoporsi al giogo rappresentato dalle istituzioni comunitarie, né invaso da immigrati che non hanno gli stessi usi e costumi dei nativi. Sotto il profilo dello stile comunicativo, non solo è stata notata la notevole abilità oratoria di Farage, ma anche la sua tendenza a entrare in diretto contatto con il popolo. A partire dalle foto che lo ritraggono nei pub con una birra in mano e una sigaretta nell'altra, e attraverso l'utilizzo di un lessico diretto, "Let us get our country back", lasciateci tornare in possesso del nostro paese, si pone sullo stesso livello dell'uomo della strada, a cui vuole assomigliare e a cui si vuole rivolgere. Si fa appello all'emotività dell'uomo medio, enfatizzando i simboli della britannicità per colpire l'immaginario degli elettori e mostrarsi come gli unici degni di fiducia perché simili al popolo. Sotto il profilo organizzativo e più semplicemente della leadership, fino a quando Farage rimane segretario del partito, 2015, con piccole parentesi nel corso degli anni, viene accusato da più parti di imprimere uno stile autoritario alla vita del partito e la personalizzazione viene percepita come assoluta, al punto da far dire nel 2015 alla BBC "UKIP is Farage". In effetti, il successo di UKIP, passato in pochi anni dal 2% al 12,6%, è da considerarsi come il prodotto della capacità di Farage di riorientare strategicamente la linea del partito su posizioni sempre più ostili agli immigrati e non solo all'Unione Europea. Nelle ultime elezioni, 2017, UKIP è quasi scomparso, ottenendo un risultato estremamente contenuto, 1,8%. Dopo la vittoria della Brexit, un ulteriore riposizionamento non riesce e le stesse dimissioni di Farage nel 2016 inducono a credere che il partito sia vittima del proprio successo. Va inoltre ricordato che il sistema britannico è un sistema elettorale maggioritario, a turno unico, e ciò non facilita l'emersione di partiti che non siano ben radicati territorialmente. Saranno le prossime elezioni a dirci se UKIP ha davvero esaurito il proprio potenziale, oppure se il riorientamento strategico di marca post-farragiana ha qualche possibilità di successo. I partiti neopopulisti inclusivi. Nella famiglia dei partiti neopopulisti, gli esclusivi sono certamente quelli che hanno una storia più consolidata. Tuttavia, soprattutto in seguito alla crisi economica, si sono sviluppate altre forme di neopopulismo con caratteristiche specifiche, come discusso nel primo capitolo. Tra i partiti neopopulisti inclusivi che andremo ad analizzare, due sono nati prima della Grande Recessione, Sinn Féin e SMER, mentre quattro sono nati successivamente, Die Linke, Syriza, Podemos e France Insoumise. Anche i partiti nati prima della crisi e non come neopopulisti inclusivi, nel corso degli anni più recenti hanno intrapreso un percorso di riorientamento strategico che li ha portati ad essere molto più simili ai più recenti. Vediamoli in dettaglio. Podemos. Un nuovo partito caratterizzato da un notevole successo elettorale è Podemos. Il partito nasce sull'onda della mobilitazione anticrisi e anti-austerità, che in Spagna sono particolarmente significative a causa dell'intensità della crisi e delle pressioni europee per adottare riforme strutturali. Movimenti sociali come Indignados e M15 costituiscono un terreno fertile per la nascita di un partito fondato, tra gli altri, dall'attuale leader Pablo Iglesias. Il partito Podemos, nato nel gennaio del 2014, si pone come ideale continuazione partitica di un movimento che mette in discussione il sistema politico post-franchista, scuotendo la politica spagnola dalle fondamenta. Un primo elemento di un certo interesse riguarda proprio la genesi del partito. Iglesias e molti altri fondatori o ispiratori sono professori universitari di scienza politica e si muovono fin dall'inizio della loro esperienza partitica con grande consapevolezza. I loro discorsi e le loro interviste abbondano di citazioni di Gramsci, di Laclau e di Chantal Mouffe, moglie di Laclau, teorica anch'essa del neopopulismo inclusivo. Non solo rispetto ai partiti populisti esclusivi, ma anche rispetto agli altri partiti populisti inclusivi, Podemos si distingue per il forte legame con l'Accademia e per le riflessioni teoriche direttamente connesse al tema. È come se il gruppo fondatore volesse passare dalla teoria accademica alla pratica politica, con notevole successo peraltro, tanto da diventare, insieme a Syriza, e forse ancor di più, un modello per altri partiti che vorranno imitarne le sorti, come Possibile e Potere al Popolo in Italia, per ora senza molto successo, o come il rilancio di Sinn Féin in Irlanda, molto più riuscito. L'ideologia di Podemos, decisamente più articolata di altre, prende esplicitamente spunto da Laclau e si caratterizza sia per il richiamo a un'alterità alla destra e alla sinistra, come anche a molti altri partiti neopopulisti, sia per la definizione di una relazione antagonistica tra la casta partitica, erede del cosiddetto regime del 78, il regime democratico post-franchista, e il 62, popolo classe che si distingue per non aver fatto parte delle istituzioni corrotte, il popolo senza istituzioni. Il popolo di Podemos è costituito di cittadini e di soggetti che si trovano a vivere in uno spazio politico determinato. Non vi è traccia di nativismo nell'ideologia di Podemos, mentre vi è traccia di sovranismo, anche se appare del tutto secondario rispetto al primo significato, popolo classe. In più occasioni i fondatori di Podemos sottolineano l'intenzionalità nel riempire il significante populismo, di parole chiave che hanno a che fare con l'inclusione, l'apertura e la redistribuzione, in antitesi a quello sciovinismo welfarista, caratterizzante i partiti neopopulisti esclusivi esaminati nel capitolo precedente. Lo stile comunicativo non ha nulla da invidiare allo stile degli altri leader. Si fa appello all'emotività, come ad esempio utilizzare un facsimile del catalogo IKEA per il programma elettorale delle elezioni politiche 2015, anche se non mancano momenti di maggior ragionamento e di enfasi su modalità dialogiche di costruzione dei programmi elettorali, in pieno stile partecipativo. Sotto questo profilo, come vedremo, Podemos si unisce al coro dei sostenitori della democrazia diretta partecipativa. Infine, la leadership. Sebbene in apparenza il partito si doti di regole improntate alla condivisione, la leadership è nelle mani di Pablo Iglesias. Tuttavia, in termini comparativi, a differenza dei partiti neopopulisti esclusivi, la leadership è sottoposta a maggiori controlli e vincoli, e il dibattito interno, soprattutto negli ultimi tempi, è diventato molto più accentuato, anche intorno a questioni che in altri partiti non avrebbero avuto alcun eco, come ad esempio il fatto che Iglesias abbia messo in votazione online la sua leadership in seguito al mutuo acceso per l'acquisto di una casa alle porte di Madrid del valore di oltre 500.000 euro. Il successo finora raggiunto da Podemos è indiscutibile. Pur rimanendo all'opposizione a livello nazionale, è riuscito ad andare al governo di numerose città, tra cui Barcellona, Cadice e Madrid, mantenendo un consenso a livello nazionale intorno al 20%. Recentemente, inoltre, la compagine parlamentare del partito ha contribuito a far cadere il governo conservatore. Syriza. L'altro partito che viene spesso citato come esempio di neopopulismo inclusivo è la coalizione della sinistra radicale Syriza. Nato nel 2012 come continuazione di una coalizione di vari partiti varata nel 2004, ottiene un successo crescente tanto da vincere due volte le elezioni nel 2015 e diventare il partito più importante della compagine governativa greca. Come è noto, la crisi greca è stata particolarmente profonda e la vita politica ne ha risentito in modo significativo. I numerosi partiti che costituiscono l'alleanza Syriza, e in particolare il leader Alexis Tsipras, riescono nell'intento di far convergere su una piattaforma neopopulista inclusiva partiti che fino agli inizi degli anni 2000 difficilmente avrebbero pensato di poter collaborare in modo strutturato e continuativo. La crisi determina spinte collaborative che tuttavia necessitano di un contenitore da riempire che faccia da collante rispetto alla pluralità ideologica dei partiti. A tal riguardo, e in sintonia con le ideologie forti di provenienza dei partiti della coalizione, l'ideologia sottile di Syriza è fortemente connessa alla lettura del popolo in una prospettiva economica, il popolo classe. Similmente al caso spagnolo, anche in Grecia, a partire dal 2011, le politiche di austerità suscitano movimento di protesta di cui Syriza riesce a farsi portavoce. La reazione antagonistica è sviluppata in modo molto netto. Uno degli slogan utilizzato per le elezioni del 2012 è «Hanno deciso senza di noi, andremo avanti senza di loro». La contrapposizione del popolo classe nei confronti dell'oligarchia, dei vecchi partiti e, in modo crescente, delle istituzioni europee è molto evidente. All'accezione in termini classisti della parola popolo si aggiunge vieppiù anche la dimensione della sovranità, da intendersi come necessità del popolo greco di poter andare avanti senza di loro, l'establishment multilivello. Nonostante le spaccature interne, nel corso del 2015 il ministro delle Finanze, Giannis Varoufakis rassegna le dimissioni e vota contro il piano di salvataggio proposto da Tsipras. Anche il governo guidato da Syriza riesce a mantenere la credibilità della propria proposta a livello nazionale, pur onorando i vincoli esterni connessi al pagamento dei debiti contratti con la Troica, data la complessità della situazione greca. Lo stile comunicativo fa continuo ricorso all'impatto emotivo. Sebbene la retorica sia fortemente connessa al malessere materiale che caratterizza la Grecia tra il 2012 e il 2015 e in parte ancora oggi, le conseguenze della crisi sono enormi. Nel giro di pochi anni la contrazione del PIL supera il 25% e il tasso di disoccupazione quadruplica. Syriza, soprattutto prima delle seconde elezioni del 2015, enfatizza in modo particolare l'aspetto emotivo della comunicazione, distinguendo nettamente i buoni, il popolo di Syriza, dai cattivi, l'establishment multilivello. La leadership di Tsipras è ad oggi indiscussa e, soprattutto dopo la dipartita di Varoufakis nel 2015, la personalizzazione del partito e della sua attività di governo è molto evidente. Proprio perché si tratta di un partito coalizione, la leadership di Tsipras non solo ha importanti finalità esterne in termini di acquisizione del consenso elettorale, ma ha anche finalità interne relative al mantenimento dell'unità di governo. Il neopopulismo inclusivo di Syriza è di particolare rilievo perché è l'unico che è riuscito ad andare al governo in un paese europeo, con il 35,46% dei voti validi. Risulta il partito più votato alle ultime elezioni politiche dell'autunno 2015. Tuttavia, non avendo ottenuto la maggioranza assoluta, Syriza deve collaborare con un altro partito neopopulista esclusivo, ANEL, per assicurare una maggioranza parlamentare e un governo. Non sorprende il fatto che nemico comune ai due partiti sia l'establishment multilivello e non gli immigrati, che potrebbero essere un nemico solo per ANEL. Die Linke. Anche altri paesi europei hanno visto la nascita e la crescita di partiti neopopulisti inclusivi. La Germania è uno di questi. Die Linke, la sinistra, nonostante il nome emblematico, apparentemente rivelatore di un modo tradizionale di concepire la politica, presenta diversi tratti riconducibili a questa categoria. Il partito viene fondato nel 2007 dall'unione di un partito preesistente, PDS, Partito del Socialismo Democratico, e di alcune personalità fuoriuscite dal Partito Socialdemocratico Tedesco, guidate da Oscar Lafontaine, fondatore nel 2005 di un altro partito. Lavoro e giustizia sociale. L'alternativa elettorale. Secondo i sondaggi più recenti, con il 10% circa dei consensi, Die Linke si colloca al quinto posto in termini di voti potenziali, dopo l'Unione, l'alleanza tra l'Unione Cristiano-Democratica di Germania e l'Unione Cristiano-Sociale di Baviera, il Partito Socialdemocratico, l'Alternativa per la Germania e i Verdi. Similmente a Syriza, Die Linke è un partito al cui interno convivono più anime. In particolare una più legata al vecchio partito comunista dell'ex Germania orientale e una più vicina ai fuoriusciti del Partito Socialdemocratico. Dopo quasi 15 anni di vita, anche per ragioni generazionali, il partito si sta allontanando dalle molteplici differenziazioni interne e, anche grazie al collante rappresentato dal neopopulismo inclusivo, sta riuscendo a dare maggior credibilità alla propria proposta politica, tanto da essere al governo, in coalizione con i socialdemocratici e i verdi, in tre stati tedeschi, Berlino, Magdeburgo e Turingia. Sotto il profilo ideologico, sebbene la matrice di sinistra sia ancora forte, fin dalla sua fondazione uno dei politici più importanti, Oscar Lafontaine, enfatizza la volontà di parlare per il popolo, sebbene nello sviluppo della vita del partito e nei programmi elettorali si faccia per lo più riferimento ai cittadini e agli esseri umani, mostrando la volontà di essere inclusivi nella definizione del soggetto da rappresentare. È nella relazione di antagonismo con i governi, con la Troica e con le banche che si evince meglio la caratterizzazione del popolo classe, che include esplicitamente, finora, anche gli immigrati. Il popolo, a cui si rivolge Die Linke, è composto principalmente dai precari, dalle minoranze, dagli esclusi dal successo economico. L'Unione Europea non viene considerata come nemico in sé, bensì come ambito di riferimento per poter costruire politiche sociali inclusive. Lo stile comunicativo è più tradizionale rispetto a quello degli altri due partiti analizzati, ma nel corso degli anni diventa sempre più emotivo, facendo appello alla necessità di porre un freno alle politiche di austerità e alle politiche di flessibilizzazione del mercato del lavoro per tutelare gli interessi delle classi popolari. L'enfasi posta sul popolo, sulla sovranità popolare e sull'antielitismo è alla base di appelli che fanno leva sull'emotività di cittadine e cittadini provati dalle crisi, in particolare la crisi economica. Per ciò che attiene all'organizzazione e alla leadership, formalmente Die Linke è un caso di leadership condivisa. Alla testa del partito vi sono due presidenti e quattro vicepresidenti. Al leader La Fontaine, caratterizzato da una forte personalità, subentrano altre figure politiche di rilievo che tuttavia non riescono a diventare unici punti di riferimento per il partito. Su questa dimensione, quindi, l'attuale leadership si discosta parzialmente dall'ideal tipo neopopulista. Dei partiti esaminati finora, Die Linke è quello che nel complesso mantiene un impianto più tradizionale rispetto a ideologia, stile comunicativo e leadership. Tuttavia, gli sviluppi recenti del partito mostrano maggiori propensioni inclusive in tutte le dimensioni sopra menzionate, ad eccezione della leadership e, giudicando dal successo conseguito da altri partiti in contesti diversi, è altamente probabile che per raccogliere maggiori consensi la strada neopopulista debba essere imboccata con maggior decisione. Sinn Féin. Spostandoci in Irlanda, esaminiamo il caso di Sinn Féin, che nasce come un partito indipendentista e poi progressivamente, dopo gli accordi di pace del 1998 che pongono fine alla questione irlandese, si trasforma in un partito dai tratti neopopulisti inclusivi. A partire dalla fine degli anni 90, il partito gioca su due scacchieri politici, l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, acquisendo crescenti consensi elettorali in Irlanda e conseguendo un successo più limitato nell'Irlanda del Nord. Ai fini della nostra analisi, ci occuperemo dell'attività politica di Sinn Féin, noi stessi, in Irlanda. A partire dalla sottoscrizione degli accordi di pace, il partito ridisegna la propria offerta politica, accentuando, in modo pienamente consapevole, la propria matrice neopopulista. Accantonata la nozione di popolo-nazione, sempre più difficile da mobilitare dopo il 1998, Sinn Féin si erge a difensore del popolo-classe, colpito in modo particolare dalla crisi economica e dalle politiche di austerità. Nel gennaio del 2013, Owen Broin, rappresentante di rilievo del partito, scrive sull'Irish Left Review un articolo, divenuto poi celebre, in risposta a un editoriale apparso sul Sunday Business Post. Nella risposta, significativamente intitolata «In Defense of Populism», O'Brien sottolinea, quasi parafrasando Laclau, come tutto il progetto politico di Sinn Féin sia neopopulista, in quanto il populismo è un modo di fare politica. Nel seguito dell'articolo illustra con ancora maggiore dettaglio la natura inclusiva della proposta di Sinn Féin. Il progetto politico di Sinn Féin è intimamente populista, ma nel senso di democratico, egualitario e progressista. Più in generale, perlomeno a partire dall'esplosione della protesta contro le politiche di austerità, Sinn Féin cerca di farsi interprete del malessere sociale, accusando i governi precedenti, insieme ai banchieri e agli speculatori, di aver portato l'Irlanda al disastro economico e alla deriva sociale. La relazione antagonistica emerge con forza: da una parte il popolo degli oppressi, dall'altra l'establishment. Anche lo stile comunicativo riflette questo antagonismo e, pur tenendo conto della grave situazione materiale derivante dalla crisi, gli appelli sono contro l'incapacità di ascolto mostrata dall'establishment e dalla volontà di instaurare una nuova repubblica in cui la sovranità popolare sia ripristinata e il potere politico ed economico ritornino ai legittimi proprietari, nelle mani del popolo. Appelli volti a mobilitare il popolo sotto il profilo emotivo intorno alla necessità di farla finita, con dei rappresentanti che hanno tradito. Storicamente, il leader indiscusso del partito è Gary Adams. A partire dalla fine del 1998, la centralizzazione e personalizzazione all'interno dei processi decisionali partitici sono molto evidenti. Secondo alcuni osservatori privilegiati, soprattutto nel corso degli anni 90, il partito viene guidato seguendo modalità bolscevique, come una leadership simile al Politburo, caratterizzato da una disciplina militare. E sebbene Adams non sia più il leader, l'impronta personalistica è rimasta. Il riordinamento neopopulista sembra aver dato ragione ai suoi sostenitori, quali O'Brien, e l'elettorato è passato dal 2,5% del 1997 al 13,8% del 2016. Ad oggi Sinn Féin non è un partito in grado di contendere la maggioranza di governo ad altri, quali il Partito Cristiano Democratico, Fine Gael, attualmente al governo, ma si è ormai affermato come un attore di primo piano sulla scena politica irlandese. France Insoumise, uno dei partiti neopopulisti inclusivi di più recente fondazione, è France Insoumise, Francia Indomita, fondato da Jean-Luc Mélenchon nel 2016 e al debutto con un risultato eccellente, 19,6%, alle elezioni presidenziali francesi nel maggio del 2017. Jean-Luc Mélenchon è un politico di lungo corso che fino a metà degli anni 90 svolge la sua carriera all'interno del Partito Socialista Francese, per poi fondare nel 2008 il Partito della Sinistra, Parti de Gauche, e France Insoumise, in vista delle elezioni presidenziali. Già in occasione delle elezioni presidenziali del 2012, candidato del Front de Gauche, Mélenchon rielabora un lessico e una connessa ideologia sottile in linea con un discorso politico neopopulista, e nel 2014 pubblica un libro, L'era del popolo, L'ère du peuple, in cui la rielaborazione dei temi tradizionali della sinistra francese viene declinata con toni e contenuti neopopulisti. L'accezione predominante del popolo negli scritti e nei discorsi di Mélenchon è quella di popolo classe, una classe nuova che supera le divisioni tradizionali, economiche, sociali, etniche, ponendosi oltre la consueta distinzione tra destra e sinistra. Una delle grandi ispiratrici del progetto di Mélenchon è Chantal Mouffe, che in più occasioni dialoga pubblicamente con il fondatore di France Insoumise, legittimandolo sotto il profilo intellettuale. Il nemico è rappresentato in prima battuta dalla burocrazia europea e dagli agenti della globalizzazione, multinazionali, banche e soggetti finanziari, espropriatori della sovranità popolare francese. Ad esempio, nel programma elettorale del 2017, uno dei punti più rilevanti è relativo all'abolizione dei privilegi della casta. Anche l'Europa è oggetto degli attacchi di Mélenchon. L'Unione Europea attuale è soltanto un mercato unico e i popoli sono sottoposti a una dittatura delle banche e della finanza. Lo stile comunicativo è neopopulista, giacché l'appello alla spettacolarizzazione della politica e all'emotività è continuo, anche soltanto nella costruzione di video e di grafica. Il sito avenirencomun.fr, utilizzato per la campagna delle presidenziali 2017, ne costituisce un ottimo esempio. Mélenchon propone un mondo nuovo, la creazione della Sesta Repubblica, la vera Repubblica del Popolo. Infine, sotto il profilo organizzativo, la personalizzazione della leadership e la centralizzazione del potere nelle mani del leader sono molto forti. Il partito viene creato da Mélenchon per concorrere alle presidenziali. Nella campagna elettorale 2017, tale personalizzazione emerge in modo molto evidente. Il salvatore Mélenchon partecipa a diversi eventi elettorali in contemporanea attraverso la sua riproduzione in forma di ologramma. Un modo per affermare la sua ubiquità e la sua straordinarietà. Il caso di France Insoumise è di grande interesse, poiché, sebbene secondo modalità diverse rispetto a Podemos, il partito viene orientato verso un'ideologia e un programma neopopulisti al fine di differenziarsi rispetto agli altri partiti di sinistra e al Partito Socialista in particolare. A tal fine, la stessa costruzione del candidato e del personaggio, Mélenchon, come neopopulista, è frutto di una strategia studiata a tavolino. Come sottolineato da molti, sebbene il programma elettorale sia costruito attraverso un percorso partecipativo, il peso della leadership e della personalità di Mélenchon rimane notevole. Il risultato ottenuto alle elezioni presidenziali del 2017 è impressionante, sebbene sia anche largamente attribuibile alla liquefazione del Partito Socialista, che peraltro non sta risalendo la china. Recenti sondaggi gli attribuiscono un risultato molto simile a quello ottenuto alle elezioni presidenziali, il 6%. Il prossimo banco di prova è rappresentato dalle elezioni europee che si terranno nel 2019. Sarà l'occasione per verificare se il successo di Mélenchon sia duraturo oppure se ne uscirà ridimensionato, come parrebbe da sondaggi recenti che attribuiscono a France Insoumise un risultato elettorale quasi dimezzato rispetto al 2017. Di certo, France Insoumise e il suo fondatore rivestiranno un ruolo rilevante sulla scena politica francese per gli anni a venire. Smer. L'ultimo caso di partito neopopulista inclusivo è Smer, Socialna Democrazia, direzione Socialdemocrazia, che, a dispetto del nome, si posiziona sullo scacchiere politico slovacco come un partito nuovo, oltre la destra e la sinistra, e si caratterizza per la retorica anti-establishment. Nel corso del tempo, il partito cerca di collocarsi maggiormente nell'area socialdemocratica, tanto da essere ancora affiliato in seno al Parlamento europeo, all'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, attenuando progressivamente le proprie caratteristiche neopopuliste inclusive. Il partito nasce nel 1999 da una scissione del Partito della Sinistra Democratica e vede nel suo fondatore Robert Fico il leader indiscusso. Fin dal suo esordio, il partito insiste sulla sua diversità e sulla volontà di battersi contro i partiti al potere in Slovacchia durante il primo periodo post-comunista. Sebbene la nozione di popolo non sia particolarmente elaborata, indirettamente emerge come un insieme di individui che vuole recuperare la sovranità espropriata dai vecchi partiti corrotti. La purezza emerge per contrasto rispetto alla corruzione dei partiti che hanno svolto funzioni di governo nel corso degli anni 90. Nei primi anni dalla fondazione del partito, la relazione antagonistica è incentrata sulla diversità rispetto ai regimi al governo in Slovacchia. Uno degli slogan utilizzati nelle prime campagne elettorali è «Hanno rubato con Mečiar, rubano con Druzinda». utilizzando i nomi di due ex primi ministri come simboli di un sistema da abbattere. Il successo elettorale del 2006 e la conseguente alleanza con partiti di destra determinano una progressiva rielaborazione ideologica nella definizione del nemico. Sempre meno i vecchi partiti, sempre più gli immigrati, in particolare a partire dal 2015, quando si è assistito a un'impennata dei richiedenti asilo. In questo riorientamento si colloca anche il progressivo allontanamento dal neopopulismo inclusivo, che, come evidenziato negli altri casi, non tematizza gli immigrati come nemici, ma piuttosto come parte del popolo a cui ci si vuole rivolgere. Fico insiste sempre di più sulla necessità di contenere l'immigrazione, dando l'impressione di volersi accodare a rivendicazioni di marca neopopulista esclusiva. Un'ideologia non solo sottile, bensì anche cangiante. Fin dai primi anni di vita, lo stile comunicativo di Smer è improntato alla necessità di un pieno rinnovamento della politica slovacca e negli anni di governo Robert Fico enfatizza la propria diversità rispetto al passato fino alle dimissioni forzate del marzo 2018 in seguito all'assassinio di un giornalista investigativo interessato ai presunti collegamenti di un suo collaboratore con l'Ndrangheta. Analogamente ad altri casi studiati, il partito nasce come un progetto personale ed è rimasto saldamente sotto il controllo di Fico, conoscendo una istituzionalizzazione molto debole. Anche dopo le sue dimissioni da primo ministro, non sembra che la sua influenza all'interno del partito sia destinata a ridursi. Come notato nel caso dei partiti neopopulisti esclusivi, l'Europa centro-orientale è più difficile da inquadrare nello schema analitico del neopopulismo perché è un sistema partitico di gran lunga meno istituzionalizzato rispetto al contesto occidentale. La flessibilità ideologica e programmatica, uno dei tratti definitori più importanti del neopopulismo nel contesto dell'Europa centro-orientale, appartiene a moltissime realtà politiche. Per restare esclusivamente al caso slovacco, oltre a Smer, si possono contare almeno altri tre partiti, il che fa della Slovacchia il paese più neopopulista d'Europa dopo la Bulgaria e a pari merito con l'Ungheria. In altri termini, un sistema partitico poco strutturato rende più probabile la nascita e il consolidamento del neopopulismo. E ciò vale in particolar modo nel caso dell'Europa centro-orientale, nella transazione da regimi neodemocratici alla piena affiliazione all'Unione Europea. La scarsa strutturazione del sistema politico e la diffusione di neopopulismi dipendono dal recente cambiamento di regime politico in senso democratico. I partiti neopopulisti italiani. Il caso italiano è stato considerato un laboratorio per i populismi. A partire da Forza Italia e Silvio Berlusconi, l'Italia è stata studiata in modo speciale a causa dei numerosi fenomeni definiti variamente neopopulisti. In questa sede, prevalentemente per ragioni di spazio, daremo conto dell'evoluzione dei due partiti oggi al governo del Paese, la Lega e il Movimento 5 Stelle. La Lega, un partito neopopulista esclusivo. Il partito della Lega Nord è indissolubilmente legato al nome del suo fondatore, Umberto Bossi, segretario federale fino alle dimissioni del 2012. Il partito nasce nel 1991, in seguito all'unione di varie esperienze federaliste sviluppatesi nell'Italia settentrionale nel corso degli anni Ottanta, tra cui la Liga Veneta, fondata formalmente a Padova nel 1980. Pur con alcuni cambiamenti programmatici avviati da Bossi a partire dalla fine degli anni Novanta, il partito rimane complessivamente fedele alle proprie origini etno-regionalistiche fino alla nomina di Matteo Salvini quale segretario nel 2014. Poiché sulla Lega Nord è stato scritto molto e fino alla leadership di Salvini risulta piuttosto incontestata la lettura etno-regionalistica sopra ricordata, qui ci soffermiamo sulle vicende più recenti di trasformazione del partito in senso neopopulista esclusivo. Nel 2012 la Lega Nord attraversa una crisi che pare irreversibile ai più, determinata da uno scandalo che riguarda Umberto Bossi e alcuni suoi familiari. L'accusa di appropriazione personale di fondi del partito, truffa ai danni dello Stato, si traduce in una condanna di primo grado emessa soltanto nella seconda metà del 2017, sebbene la leadership di Bossi venga già minata a partire dal 2012, data di avvio di diverse indagini sul suo conto. Nelle elezioni politiche del 2013, la Lega Nord ottiene un risultato elettorale di poco superiore al 4% alla Camera, tra i peggiori della sua storia. Il tentativo di Bossi di ritornare alla guida del partito naufraga nel 2013, quando perde le primarie contro Salvini, vincitore con l'82% dei consensi. Da quel momento inizia una nuova era per la Lega Nord, che si avvicina sempre più al modello di neopopulismo esclusivo, operazione a cui si può ascrivere anche il cambiamento del nome in Lega nel gennaio del 2018. Sotto il profilo ideologico, la Lega Nord delimita chiaramente il terreno fin dall'inizio della sua storia, confinandosi nell'ambito del popolo-nazione e costruendo nella Padania e nella nazione padana una comunità immaginaria. Sebbene storicamente infondata sotto il profilo etnoculturale, la Padania acquista grande fama sotto il profilo simbolico. È un segnale di rifondazione territoriale che affascina molti elettori. Il popolo macro-regione, identificato da Bossi e dalla Lega Nord, è un popolo che, nelle intenzioni del fondatore, dovrebbe esercitare sovranità al di fuori del contesto nazionale italiano, attraverso la secessione. A partire dal 2014, Salvini cerca invece di definire il popolo della Lega Nord nell'ambito di un progetto politico di respiro nazionale, fortemente contrapposto al disegno originario. In vista delle elezioni europee del 2014, identifica con gran precisione i nemici: l'Europa e l'euro in particolare, e gli immigrati. Nell'ottobre del 2014 viene organizzata una manifestazione contro l'immigrazione clandestina a cui partecipano decine di migliaia di persone e in cui la parola d'ordine è stop invasione. A partire dal dicembre del 2014, nel Mezzogiorno vengono create sezioni di un nuovo partito, Noi con Salvini, ponte di lancio per il progetto della Lega Nazionale. Il coronamento del restyling salviniano si ha con il cambio del nome in Lega, in occasione delle elezioni politiche del 2018, in cui ottiene il migliore risultato in assoluto, oltre il 17% in entrambi i rami del Parlamento. Anche in occasione della campagna 2018, i nemici sono gli immigrati, principalmente clandestini, e i partiti che hanno governato negli anni precedenti. Complessivamente l'Unione Europea costituisce un bersaglio, ma di secondo piano rispetto al tema degli immigrati. Lo stile comunicativo di Salvini è fortemente incentrato sull'emotività. Non è un caso che la sua comunicazione passi principalmente attraverso i social media e i suoi video costituiscono una delle forme comunicative più diffuse ed efficaci. Potremmo quasi dire che il leader della Lega abbia fatto dell'informalità e della comunicazione non mediata la propria cifra stilistica. Non è un caso che non ci sia stato nessun confronto televisivo con Matteo Renzi e che la campagna elettorale sia stata giocata soprattutto a suon di tweet e comunicati via Facebook. Salvini è il salvatore, grazie al quale l'Italia non verrà invasa dagli immigrati. La personalizzazione non ha soltanto riguardato la comunicazione, bensì anche il controllo del partito. Dopo l'uscita di scena di Bossi, la Lega è ormai il partito di Salvini, e l'operazione di cui abbiamo detto, di creare un partito nel Mezzogiorno che porta la Lega al relativo successo elettorale anche nel Meridione, è interamente da ascrivere all'iniziativa del leader. I risultati elettorali, e ancor più i sondaggi in circolazione a settembre 2018, che stimano il consenso per la Lega intorno al 28%, gli danno ragione. La nuova strategia è vincente. La leadership è saldamente nelle mani di Salvini e lo stile comunicativo predominante è quello non mediato da altri interlocutori che potrebbero offuscarlo. Il Movimento 5 Stelle, alla ricerca di un'identità neopopulista. A livello nazionale, il Movimento 5 Stelle si presenta per la prima volta alle elezioni del 2013, ottenendo in entrambi i rami del Parlamento un risultato strabiliante. Oltre il 25% dei voti validi alla Camera e quasi il 24% al Senato. Un tale risultato sarebbe notevole per qualsiasi partito, ma lo è specialmente per un partito al debutto. Il successo, però, viene da lontano. In particolare, muove dagli iscritti di Beppe Grillo, inseriti nel suo blog, dagli incontri dei gruppi informali Amici di Beppe Grillo e, a partire dal 2007, dalla realizzazione del V-Day come momenti di sfogo collettivo e di socializzazione politica. Il movimento viene fondato nel 2009 e nei primi anni di vita si presenta a numerose competizioni politiche locali con risultati alterni. Il successo elettorale del 2013 deve molto alla raccolta del consenso degli iscritti sia del centro-sinistra sia del centro-destra e alla capacità di recupero degli astenuti alla tornata precedente, 2008. Tra il 2013 e il 2018 vince diverse elezioni amministrative, in particolare in città di cruciale importanza, quali Torino e Roma, e alle elezioni politiche del 2018 diventa il primo partito italiano ottenendo oltre il 32% in entrambi i rami del Parlamento. Sebbene la natura neopopulista del Movimento 5 Stelle sia ormai assodata, rimangono diverse le perplessità in relazione al posizionamento rispetto alla sua natura inclusiva o esclusiva. Nel Movimento 5 Stelle convivono infatti diverse anime, e in particolare intorno al tema dell'immigrazione, molto controverso. Vi è una notevole fluidità delle preferenze espresse dai rappresentanti del partito, nonché dal suo elettorato. La principale accezione di popolo cui il partito fa riferimento è senz'altro quella di popolo sovrano. Sia nelle comunicazioni contenute nel blog di Grillo, sia nei programmi elettorali, uno dei temi più importanti, se non il più importante, è relativo alla volontà di porre fine alla casta dei rappresentanti dei partiti tradizionali. Tra i nemici, poi, si annoverano l'Unione Europea, la Troica, le multinazionali e la Banca Mondiale. Tutto il repertorio classico del nemico nella costruzione di un antagonismo che vede in Beppe Grillo prima e nel Movimento 5 Stelle poi l'unica opportunità di rappresentanza per il popolo puro. Rispetto alla natura inclusiva o esclusiva del Movimento 5 Stelle, la cartina di tornasole dovrebbe essere rappresentata dall'inclusione o meno dei marginali nel popolo pentastellato. E sotto questo profilo gli immigrati potrebbero essere un banco di prova per la classificazione del movimento. Tuttavia pare difficile riuscire a trovare una posizione coerente sul tema. Ad esempio, in occasione del voto in tema di Ius Soli, alla Camera dei Deputati nel 2015, il Movimento 5 Stelle decide di astenersi perché il tema sarebbe divisivo, nonostante la proposta in votazione in Parlamento fosse molto simile a una proposta fatta nel 2013 dal Movimento 5 Stelle stesso. Anche nel dicembre del 2017, in occasione del voto per lo stesso provvedimento al Senato, il Movimento annuncia l'astensione. Ancora più di recente, nell'attività del governo in carica, i pentastellati non stanno facendo sentire in modo molto deciso una voce contraria o a favore degli interventi chiaramente esclusivi, quali la proposta di chiudere i porti del ministro Salvini. L'unica voce critica, in modo neppure troppo velato, è quella dell'attuale presidente della Camera, Roberto Fico, che a più riprese manifesta segnali di apertura e di maggiore attenzione inclusiva nei confronti degli immigrati e dei possibili richiedenti asilo. Un altro esempio, il reddito di cittadinanza, si presenta come un provvedimento inclusivo nei confronti dei soggetti in difficoltà, che però devono essere cittadini, come recita il programma elettorale del 2018. Sebbene non in modo così marcato, con lo slogan di Salvini, prima gli italiani, sostenere una misura di integrazione del reddito che sia rivolta esclusivamente ai cittadini, implica escludere tutti i soggetti che si trovano in una situazione di necessità, ma che non sono in possesso di cittadinanza. Una forma di sciovinismo sociale o di welfare chauvinism che caratterizzerebbe il Movimento 5 Stelle più come partito neopopulista esclusivo che come inclusivo. L'ambiguità rimane e pertanto, sebbene in una prospettiva di medio periodo sia opportuno considerare il Movimento 5 Stelle come un partito neopopulista inclusivo, ad oggi è da rimarcare la difficile collocazione del partito. Nell'analisi dello stile comunicativo del Movimento 5 Stelle si evidenzia, fin dalle prime comunicazioni sul blog di Beppe Grillo, il mancato appello ad argomentazioni razionali e il ricorso costante all'emotività. Basti pensare al V-Day come momento catartico di insulto generalizzato ad un'intera classe politica. In quel contesto non vi è spazio per un dialogo, ma solo per l'invettiva. E attività istituzionale a parte, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, incluso l'attuale leader Di Maio, coltivano questo stile fatto di derisione e demonizzazione dell'avversario e di autopromozione di se stessi come unici possibili rappresentanti della purezza del popolo. Per anni il movimento è Grillo e Gianroberto Casaleggio, sebbene in posizione maggiormente defilata. La personalizzazione è assoluta. Non solo il logo è di sua proprietà, ma anche nella vita partitica una scomunica di Grillo equivale all'espulsione dal movimento. La sua parziale uscita di scena consente ad altri leader, quali l'attuale ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, di raccogliere il suo testimone. In altri termini, rispetto a un contesto di estrema personalizzazione e alla centralizzazione del potere, il contesto attuale risulta più aperto, sebbene i meccanismi decisionali e la gestione del partito siano ancora fortemente centralizzati, soprattutto se si considera il ruolo parallelo svolto dall'associazione Rousseau, gestita ora da Davide Casaleggio. A differenza di tutti i partiti fin qui analizzati, la caratterizzazione neopopulistica specifica del Movimento 5 Stelle rimane ancora molto ambigua. Come detto in precedenza, è nella natura dell'offerta politica neopopulista essere flessibili e quindi essere potenzialmente ambigui. Tuttavia, il movimento si segnala per una flessibilità che è forse più frutto della difficoltà di prendere posizioni su temi controversi. L'attività di governo non potrà che sciogliere i dubbi, rivelando le politiche pubbliche preferite e quindi la matrice della propria essenza neopopulistica. Orientamenti ed elettorato. Nei capitoli precedenti abbiamo analizzato i partiti neopopulisti e la loro capacità di innovare rispetto all'offerta politica preesistente. Le proposte neopopuliste hanno incontrato il favore di un elettorato caratterizzato da una fiducia decrescente nei confronti della politica e delle istituzioni, provato dalla crisi economica, soprattutto in alcuni paesi europei, e impaurito dall'immigrazione. Il successo elettorale dei partiti neopopulisti è da ascrivere anche alla capacità di rappresentare ampi strati della popolazione, riuscendo in alcuni casi, come ad esempio per il Movimento 5 Stelle, a raccogliere consensi in quell'area dell'astensionismo che altri partiti non erano riusciti a riportare al voto. A tal riguardo, secondo i dati relativi ai flussi elettorali delle elezioni politiche 2018, in alcune città italiane il partito pentastellato riesce a conquistare i voti di chi alle elezioni precedenti si era astenuto in tutte le città analizzate e in particolare nel Mezzogiorno, con punte superiori al 35% in uno dei due collegi di Napoli, presi in esame dal gruppo di ricerca dell'Istituto Cattaneo. Ma al di là della capacità dei partiti neopopulisti di catturare consensi rispetto alle scelte di voto compiute nelle elezioni precedenti, si possono individuare caratteristiche specifiche dell'elettore neopopulista? Per rispondere a questa domanda, ricorriamo ad un utile studio pubblicato nel luglio del 2018 dal Pew Research Center, uno dei più autorevoli istituti di sondaggio a livello mondiale, che ha svolto un'indagine tra la fine di ottobre e la metà di dicembre del 2017 in Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito. Per cogliere la specificità del potenziale elettorato populista, sono definiti populisti i soggetti secondo cui la maggior parte dei rappresentanti eletti non presta attenzione alle opinioni di persone come me e persone normali svolgerebbero il lavoro migliore nel risolvere i problemi del paese, lo studio distingue tre tipi di populismo a partire dalla classica divisione sinistra-destra. Populismo di sinistra, populismo di centro e populismo di destra. A nostro avviso, tale distinzione è problematica rispetto all'articolazione dell'offerta politica, aspetto confermato dal fatto che nello studio non vengono identificati partiti neopopulisti di centro. Tuttavia, lo studio è uno dei pochi a fornire informazioni così dettagliate sull'elettorato neopopulista potenziale e pertanto merita di essere commentato in maniera puntuale. Uno dei risultati più interessanti riguarda le dimensioni complessive del potenziale elettorato neopopulista. Da un minimo intorno al 10% nel caso svedese ad un massimo del 41% nel caso spagnolo. L'Italia si posiziona a ridosso della Spagna, con un totale pari al 38%, suddiviso in 8% di neopopulisti di sinistra, 12% di neopopulisti di centro e 18% di neopopulisti di destra. Nel complesso, sebbene i dati debbano essere utilizzati con cautela perché i risultati elettorali più recenti dei partiti definiti neopopulisti di destra e di sinistra nello studio sono per lo più superiori, in particolare se si confrontano ai dati elettorali relativi al 2018 dei democratici svedesi, caso di neopopulismo esclusivo di destra, o come nel caso di France Insoumise. Si tratta di una stima piuttosto credibile delle dimensioni reali dell'elettorato neopopulista intorno alla fine del 2017. Orientamenti neopopulisti. Particolarmente originali, inoltre, sono le informazioni relative alle opinioni dei neopopulisti rispetto agli elettori tradizionali in tema di orientamenti politici. In primo luogo, come ampiamente prevedibile, tali elettori sono molto più sfiduciati nei confronti delle istituzioni e dei partiti. Ad esempio, con riferimento all'Unione Europea, i neopopulisti, in tutte le varianti di sinistra, centro e destra, ritengono l'adesione all'Unione Europea come una cosa buona, in modo molto più limitato degli elettori degli altri partiti tradizionali, con differenziali di sostegno che toccano punte del 30%. Invece una differenza significativa si riscontra tra gli elettori neopopulisti con riferimento all'immigrazione. Rispetto all'affermazione Gli immigrati incrementano il rischio di attentati terroristici nel vostro paese? Gli elettori neopopulisti di centro e di destra, che rispondono in modo affermativo, sono di gran lunga superiori rispetto agli elettori neopopulisti di sinistra. Un altro elemento di differenziazione è rappresentato dall'opinione relativa al ruolo dello Stato sociale. All'affermazione secondo la quale è responsabilità del governo garantire uno standard di vita decente per tutti, risponde in modo affermativo il 79% dei neopopulisti di sinistra, contro il 68% dell'elettorato tradizionale di sinistra. Il 46% dei neopopulisti di centro, contro il 42% dell'elettorato tradizionale di centro, e il 48% dei neopopulisti di destra, contro il 32% dell'elettorato tradizionale di destra. Costante, però, è la percentuale più alta dei neopopulisti rispetto alla domanda di protezione sociale nei confronti dell'elettorato tradizionale, con un divario particolarmente consistente nel caso del neopopulismo di destra rispetto all'elettorato tradizionale di destra. Ma chi sono i potenziali elettori neopopulisti? Confrontando i vari paesi oggetto dello studio del Pew Research Center, troviamo differenze significative. Sotto il profilo demografico vi è una leggera prevalenza di giovani, persone con meno di 30 anni, neopopulisti di sinistra, rispetto ai giovani elettori di partiti tradizionali di sinistra nel Regno Unito, 35% e 34% rispettivamente. In Italia 20% e 16% rispettivamente, e in Spagna 28% e 24% rispettivamente. Negli altri paesi o non vi è differenza, come nel caso svedese, 15% per entrambi gli elettorati, e tedesco 25%, oppure vi è una prevalenza di giovani potenziali elettori tradizionali di sinistra rispetto ai giovani neopopulisti di sinistra. Danimarca 28% contro il 20%, Paesi Bassi 30% contro il 22%, Francia 24% contro il 23%. Complessivamente, però, non vi sono differenze così significative. Simili, limitate, differenze emergono anche sul fronte opposto dei giovani potenziali elettori neopopulisti di destra rispetto ai giovani di destra, ad eccezione della Germania, dove i giovani neopopulisti di destra rappresentano il 27% del totale, mentre i giovani di destra sono il 13%. Tali dati sono di un certo interesse, perché smentiscono un'interpretazione diffusa secondo cui il potenziale elettorato neopopulista sarebbe composto in prevalenza da persone di mezza età. Come vedremo meglio, analizzando alcuni elettorati nazionali, l'età anagrafica dell'elettorato populista è relativamente elevata solo in alcuni casi. Riguardo il profilo socio-economico, emergono due elementi. Il primo riguarda lo status occupazionale. Secondo i dati illustrati nel rapporto del Pew Research Center, ad eccezione della Svezia, dove non vi sono differenze significative, in tutti i paesi analizzati, i neopopulisti o i loro familiari sono stati disoccupati in maggior misura rispetto al resto della popolazione. A differenza di altre dimensioni di analisi, non vi sono differenze significative tra i vari neopopulismi. In altri termini, tutti i neopopulismi rappresentano soggetti che hanno avuto maggiori difficoltà di inserimento lavorativo. Il secondo elemento di interesse riguarda il profilo reddituale. Tra i neopopulisti vi è una maggiore percentuale di redditi bassi rispetto ai partiti tradizionali. Senza che emergano differenze rilevanti tra i neopopulismi di sinistra, di centro o di destra. Un ultimo elemento da sottolineare riguarda l'interesse nei confronti della politica. In tutti i paesi analizzati vi è un minore interesse nei confronti della politica da parte dei neopopulisti, e anche in questo caso non vi sono differenze significative rispetto alle varianti di neopopulismo. Rispetto ad un valore medio del 55% dell'elettorato tradizionale che si ritiene interessato a questioni politiche, in tutti i paesi, ad eccezione di Paesi Bassi e Svezia, vi è un differenziale di almeno 10 punti percentuali tra chi si ritiene interessato alla politica nel potenziale elettorato tradizionale e in quello neopopulista. In sintesi, l'analisi comparativa mostra con una certa chiarezza quali siano le caratteristiche predominanti del potenziale elettorato neopopulista. Abbastanza giovane, in situazione socio-economica di difficoltà relativa, con un interesse limitato per la politica e relativa alta sfiducia nei confronti delle istituzioni. Non vi sono differenze sostanziali tra gli elettori di riferimento sotto il profilo demografico, socio-economico e in termini di sfiducia nei confronti delle istituzioni nazionali ed europee. Le uniche differenze riguardano, come era largamente prevedibile, il profilo ideologico. I neopopulisti di sinistra credono maggiormente nel ruolo redistributivo dello Stato rispetto ai neopopulisti di centro e di destra. Inoltre, i neopopulisti di sinistra considerano in misura minore l'immigrazione come un peso di quanto non accada per i neopopulisti di centro e di destra. Sebbene per tutti i tipi di neopopulismo gli immigrati vengano visti maggiormente come un peso rispetto alle controparti tradizionali. Elettorato neopopulista. In che modo questi orientamenti neopopulisti si sono tradotti in un comportamento elettorale favorevole ai partiti neopopulisti? Le ricerche convergono nel sostenere che l'elettorato neopopulista esclusivo sia prevalentemente un perdente della globalizzazione, e cioè composto da persone con livelli di istruzione medio-bassi, appartenenti a classi di reddito medio-basse ed esposte a maggiori difficoltà di inserimento e reinserimento lavorativo. Sull'elettorato inclusivo, invece, una ricerca condotta da Matisse Rudine e pubblicata di recente compara gli elettorati di 15 partiti dell'Europa occidentale, suddividendola in elettori di partiti populisti di destra e di sinistra. Tale ricerca mostra che vi sono delle differenze significative. Mentre l'elettorato populista di sinistra non presenta un livello di istruzione basso, lo è quello dell'elettorato populista di destra. La sfiducia nei confronti delle istituzioni, Parlamento e dei politici è una caratteristica comune, mentre si conferma l'atteggiamento negativo nei confronti degli immigrati per gli elettori di partiti neopopulisti esclusivi, ma non per gli elettori di partiti neopopulisti inclusivi. In altri termini, a varianti di partiti neopopulisti corrispondono anche varianti di elettorati neopopulisti. A mo' di esempio, consideriamo più da vicino gli elettorati di alcuni partiti neopopulisti alle ultime elezioni. Front National, il Partito della Libertà austriaco, France Insoumise e Podemos. Alle elezioni presidenziali francesi del 2017, l'elettorato del Front National è composto prevalentemente da maschi, relativamente più giovani, appartenenti a famiglie con redditi e patrimoni medio-bassi, con livelli di istruzione limitati e inseriti nel mondo del lavoro come operai in misura maggiore e come impiegati. Anche nel contesto austriaco il quadro è molto simile a quello francese, in occasione delle elezioni presidenziali del 2016. I votanti per il candidato del Partito della Libertà austriaco, Norbert Hofer, sono persone con meno di 30 anni, relativamente più uomini che donne, con bassi livelli di istruzione e basso reddito. I risultati elettorali delle elezioni politiche dell'ottobre del 2017 confermano il quadro relativo alle elezioni presidenziali. Rispetto agli altri elettori, chi ha votato il Partito della Libertà austriaco è più giovane, con una prevalenza relativa di operai e impiegati, e presenta un livello di istruzione relativamente basso. I due partiti neopopulisti inclusivi, invece, presentano delle caratteristiche solo parzialmente simili sotto il profilo sociodemografico. Alle elezioni presidenziali del 2017, l'elettorato di France Insoumise è composto da una percentuale relativamente maggiore di giovani al di sotto dei 30 anni, di donne, da soggetti con patrimoni relativamente bassi e con livelli di istruzione relativamente più alti e con una prevalenza relativa di operai e impiegati. Le differenze principali, infatti, non riguardano tanto le caratteristiche sociodemografiche, bensì gli orientamenti nei confronti della politica e delle istituzioni. I dati relativi a France Insoumise, se confrontati con quelli relativi al Front National, confermano che, oltre alla comune sfiducia nei confronti dell'establishment e alla critica anti-globalizzazione, nei confronti dell'Islam vi è una maggiore differenza tra gli elettori del partito neopopulista esclusivo, mentre tra gli elettori del partito neopopulista inclusivo vi è un orientamento più positivo nei confronti della ridistribuzione della ricchezza. Infine, Podemos. Alle elezioni politiche del 2015, l'elettorato del partito spagnolo è composto da una proporzione maggiore di uomini rispetto all'elettorato totale. È più giovane, nella fascia 18-24 anni, con alto livello di istruzione, con relativamente più disoccupati, meno persone religiose e con bassa fiducia nei confronti delle istituzioni nazionali, Parlamento ed europee, ma propenso a forme di solidarietà a livello europeo. Concludiamo con alcune considerazioni sugli elettori neopopulisti italiani, prendendo spunto dalle elezioni politiche tenutesi il 4 marzo 2018. La prima considerazione riguarda la distribuzione geografica del voto. Come messo in risalto da molti osservatori, mentre la Lega si rafforza ulteriormente al nord, il Movimento 5 Stelle riesce a impossessarsi del Sud con un incremento particolarmente significativo in alcune regioni, quali Campania, Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Come evidenziato dalle analisi di YouTrend nel dossier sulle elezioni politiche 2018, con riferimento ad alcuni collegi campani quali Acerra, Casoria, Napoli Ponticelli, Giuliano di Campagna e Aversa, l'incremento dei voti rispetto al 2013 si colloca tra il 30 e il 40%. Similmente al nord, la Lega conosce un incremento di voti molto rilevante, in particolare in Veneto e Lombardia, le roccaforti del consenso leghista. Come è noto, il divario territoriale è colmato dall'alleanza di governo, ma ciò che interessa in questa sede riguarda piuttosto le caratteristiche sociodemografiche dell'elettorato leghista e pentastellato. Secondo i dati elaborati da Ipsos, la Lega, protagonista di un successo relativo considerevole, non presenta differenziazioni significative di genere, mentre è votata, in linea col risultato nazionale, nelle fasce d'età comprese tra i 18 e i 34 anni e tra i 35 e i 49 anni, 17,8% e 17,6% rispettivamente. Ottiene un risultato superiore al dato nazionale nella fascia d'età 50-65, 19,7%. E inferiore nella fascia d'età degli ultra 65 anni. Inoltre, la Lega risulta più votata tra i possessori della licenza media ed elementare, 22,4% e 17,6% rispettivamente, mentre è relativamente poco votata dai diplomati e dai laureati, 13,3% e 11,3% rispettivamente. Si segnala infine una netta prevalenza tra i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti. Il Movimento 5 Stelle è anch'esso protagonista di un successo ragguardevole, ma senz'altro relativo rispetto all'exploit del 2013. Il voto del Movimento non si caratterizza per significative differenze di genere, bensì per specificità anagrafiche, risultando più votato nelle fasce d'età 35-49 anni, 35,4%, 18-34 anni, 35,3%, e 50-65 anni, 34%, e meno votato tra gli ultra-65enni, 27,1%. Il Movimento 5 Stelle risulta più votato tra i diplomati, 36,1%, e i possessori di una licenza della scuola media, 33,3%, mentre è meno votato tra i possessori della licenza elementare, 30%, e i laureati, 29,3%, tra i quali, comunque, rimane il partito più votato in assoluto. Inoltre, il Movimento 5 Stelle risulta il partito più votato dai disoccupati, 37,2%, e dagli operai, 37%, mentre riscuote un consenso elettorale relativamente limitato tra i ceti elevati, 31,2%, e in particolar modo tra i pensionati, 26,4%. Infine, il movimento risulta più votato tra i dipendenti pubblici, 41,6%, rispetto ai dipendenti di aziende private, 34%. Utilizzando i dati Itanes relativi al 2013, risulta come l'elettorato pentastellato abbia una fiducia limitata nei confronti delle istituzioni europee e delle istituzioni politiche, mentre nutre un interesse relativamente elevato nei confronti della politica. Gli elettori dei due partiti confermano le tendenze già rilevate per gli altri partiti neopopulisti europei. In particolare, l'elettorato leghista è in linea con altre espressioni del neopopulismo esclusivo, mentre il Movimento 5 Stelle, con particolare riferimento al dato relativo all'istruzione, pare più vicino al neopopulismo inclusivo. A tal riguardo, sempre facendo ricorso ai dati Itanes, se si osserva l'autocollocazione degli elettori del Movimento 5 Stelle sull'asse destra-sinistra, problematico, come abbiamo già detto, ma comunque utile in assenza di dati relativi alle dimensioni inclusivo-esclusivo, si nota che per le elezioni 2013 la media degli elettori si collocava a centro-sinistra, non pienamente a sinistra, dove per il 2013 troviamo gli elettori di Sinistra Ecologia e Libertà, ma di certo non a destra, dove troviamo gli elettori di Lega Nord e Forza Italia. Ferma restando la natura ambigua del Movimento 5 Stelle, pare corretto perlomeno considerare l'elettorato più di sinistra che non di destra. Nel nostro lessico, più appartenente a un'espressione di voto neopopulista inclusivo che non un'espressione di voto neopopulista esclusivo. Per concludere, dall'analisi delle caratteristiche dell'elettorato neopopulista si conferma la varietà dei neopopulismi già evidenziata nell'analisi delle sottili ideologie dei partiti. Sebbene in questo momento storico parti di elettori siano particolarmente fluidi, ciò che emerge nel confronto ravvicinato di elettori e partiti neopopulisti in prospettiva comparata è la loro distanza. Tra i partiti neopopulisti si rilevano differenze molto significative e non esiste un unico elettorato neopopulista. Conclusioni. L'era della democrazia neopopulista? Il primo obiettivo di questo viaggio nel mondo del neopopulismo era fornire una chiave di lettura per comprendere la nascita e il consolidamento di nuovi partiti e lo sviluppo di nuove modalità di fare politica. Le tre crisi politica, economica, migratoria hanno consentito ai partiti neopopulisti di diventare forze politiche di grande rilievo in molti paesi. In questo breve libro non è stata inclusa la variante statunitense di neopopulismo esclusivo perché avrebbe richiesto troppo spazio aggiuntivo. Ma è indubbio che una delle ragioni per cui il neopopulismo è diventato un oggetto di studio così rilevante risiede nel fatto che alla testa del più potente paese del mondo si trovi un neopopulista, o perlomeno una personalità politica che è stata definita populista da più parti. Il secondo obiettivo era comprendere se questo fenomeno fosse destinato a durare o meno. A questo punto del nostro viaggio la risposta è semplice. L'onda neopopulista viene da lontano ed è destinata a durare. E ciò a causa della profondità e durata delle tre crisi ricordate e a causa di un fenomeno che finora non abbiamo trattato, ma che è un fattore facilitante di straordinaria importanza. La nuova centralità dei social media e, più in generale, della comunicazione politica online. Negli ultimi anni, in diversi paesi europei, ad esempio il Regno Unito, i media online hanno superato quelli tradizionali come fonte di informazione per i cittadini. Pertanto, anche le informazioni politiche si acquisiscono principalmente in rete, cioè attraverso Facebook, Twitter o Instagram. Sono tutti media che facilitano la costruzione di un messaggio neopopulista, giacché richiedono una semplificazione del messaggio al fine di poter comunicare in modo rapido ed efficace. I 140 caratteri di Twitter o le immagini commentate di Instagram non lasciano molto spazio a un ragionamento, ad una argomentazione circostanziata. Inoltre, facilitano la personalizzazione del messaggio politico. Gli account Twitter o Facebook dei leader sono molto più seguiti degli account dei rispettivi partiti politici. Ad esempio, a metà luglio 2018, Salvini aveva oltre 2,8 milioni di likes alla sua pagina Facebook, mentre la pagina Facebook della Lega ne ha meno di 500.000. Luigi Di Maio, diventato leader del Movimento 5 Stelle da relativamente poco tempo, viene apprezzato con quasi 2 milioni di likes, mentre la pagina del partito ne ha meno di 1,5 milioni. Anche le trasmissioni televisive sono sempre meno ricercate dai politici che possono comunicare direttamente, senza contraddittorio, con video postati sui loro siti o su YouTube. La politica è sempre più spettacolo, ma un tipo particolare di spettacolo, il monologo. Ciò non significa che alcuni mezzi della politica tradizionale vengano dismessi completamente. Ad esempio, il raduno della Lega a Pontida è stato organizzato anche quest'anno ed ha rappresentato un momento importante di condivisione tra il leader e l'elettorato leghista. Analogamente, la partecipazione di Di Maio a numerose iniziative di partito, soprattutto in occasione di campagne elettorali, mostra come gli incontri diretti non siano stati completamente sostituiti dalle nuove forme di comunicazione, bensì integrati in una strategia articolata che si sta mostrando molto efficace. La comunicazione quotidiana sui social, puntellata da momenti di condivisione collettiva per rafforzare il senso di appartenenza a soggetti politici reali e non virtuali. In altri termini, e allargando un poco l'orizzonte, i neopopulismi sono certamente prodotto della triplice crisi politica, economica, migratoria, di cui si è scritto nel secondo capitolo, ma sono stati facilitati dalla diffusione di nuove forme di comunicazione di massa che semplificano la personalizzazione virtuale dell'interazione e la spettacolarizzazione continua dell'attività politica. I partiti tradizionali saranno in grado di vincere la sfida che i partiti neopopulisti, esclusivi o inclusivi che siano, hanno lanciato? Soltanto laddove le crisi sono state avvertite in modo relativamente limitato, come ad esempio in Germania o, per altri versi, in Portogallo, è per ora possibile continuare a fare politica in modo più convenzionale e vincere le elezioni. Tuttavia, considerando le varie dimensioni del neopopulismo, ideologia, stile comunicativo e organizzazione, difficilmente vi saranno partiti europei che resteranno completamente immuni da una ridefinizione neopopulista della propria attività politica. Per i partiti tradizionali, il compito più difficile sarà quello di adattare la propria storia al nuovo zeitgeist populista. E ciò può essere fatto soltanto combinando in modo convincente la propria ideologia tradizionale con una ridefinizione della nozione di popolo. Ad esempio, secondo alcuni osservatori, a partire dal 2017, l'attuale leader laburista britannico Jeremy Corbyn ha ridefinito in senso populista l'ideologia laburista, identificando nelle elite globali il nemico, avvicinandosi ad uno stile comunicativo di forte impatto emotivo e controllando in modo sempre più stretto il suo partito. Al neopopulismo si risponderà sempre più con forme neopopuliste di azione politica. E ciò perché siamo ormai pienamente inseriti, per tutte le ragioni e con le modalità su cui si è insistito in questo libro, in un'epoca neopopulista. Una delle questioni che non sono state affrontate puntualmente in questa sede riguarda l'impatto dei neopopulismi sulle democrazie contemporanee. Esistono anche forme di neopopulismo sviluppatesi in contesti non democratici, ma tali forme non hanno costituito l'oggetto precipuo della nostra analisi. Tuttavia non possiamo concludere senza porci una domanda. I neopopulismi costituiscono una minaccia o un'opportunità per la democrazia? Avendo distinto tra varie forme di neopopulismo, anche la risposta a questa domanda necessita di una distinzione tra neopopulismi che hanno aiutato i sistemi democratici a riguadagnare un contatto col demos e neopopulismi al governo ancora limitati, promotori in alcuni casi di politiche pubbliche volte alla limitazione, se non progressiva chiusura, di spazi di competizione politica. Sotto tale profilo vi è una significativa differenza tra il Movimento 5 Stelle, che, come nel caso delle ultime elezioni, ha riportato al voto elettori che in passato si erano astenuti, in tal modo rafforzando il legame tra comunità politica e istituzioni, e Fidesz del primo ministro ungherese Orban, che ha adottato politiche illiberali. In altri termini, i neopopulismi possono essere minaccia o opportunità. Dipende dal contesto e dal tipo di neopopulismo. In contesti di democrazia consolidata non si intravedono consistenti pericoli per la tenuta della democrazia. In contesti in cui la democrazia è ancora giovane o fragile, i rischi sono maggiori, perché l'ideologia sottile, uno stile comunicativo incentrato sulla mobilitazione dell'emotività e sulla denigrazione dell'avversario, e una leadership personalistica possono portare alla rottura degli equilibri democratici. E ciò vale in modo particolare per il neopopulismo esclusivo. In questi casi è necessario essere estremamente vigili. I neopopulismi sono destinati a durare. Siamo entrati in un'era nuova per le democrazie contemporanee. Un'era che presenta luci ed ombre, che può piacere o non piacere, ma che deve essere in primo luogo compresa in tutte le sue varie sfaccettature. Hai appena ascoltato Neopopulismi, perché sono destinati a durare, di Paolo Graziano. Letto da Gianni Gaude. Una produzione Audible Studios. Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.